azione del professor Ruffilli, e dopo faremo un breve intervallo e poi dopo un breve intervallo faremo poi la discussione prima sulla relazione del professor Cortini e poi su quella del professor Ruffilli, così anche tutti possono ripensarci e prepararsi. E di nuovo prego anzitutto i nostri cari amici più giovani di noi, i nostri amici portisti, di prendere la parola e di essere così attivi come ieri e l'altro ieri nella discussione. Allora la parola è del professor Ruffilli. Prego, professore. Allora, l'analisi storiografica sulle vicende dello Stato, vicende istituzionali dello Stato liberale nel nostro Paese, ha continuato e continua per taluni profili a ruotare attorno alle tre questioni rimaste al centro dei dibattiti, delle polemiche, dei conflitti tra le forze politiche e sociali impegnate nella realizzazione di tale Stato e nel superamento delle contraddizioni del suo rapporto con la società. Si tratta, per un verso, della questione del decentramento nei suoi vari aspetti, quali fra l'altro il rapporto fra accentramento politico e decentramento amministrativo, il riconoscimento dell'autonomia amministrativa ed anche politica degli enti locali, l'istituzione dell'ente regione. L'altra questione è quella della giustizia nell'amministrazione, e cioè l'eliminazione in quest'ultima, nell'amministrazione appunto, per dirla con Minghetti, della ingerenza dei partiti, con la separazione fra politica e amministrazione e l'affermazione della imparzialità della seconda, cioè dell'amministrazione, nell'ambito della sua sottoposizione alla legge, con l'eliminazione, per usare termini attuali, degli aspetti parassitari e clientelari della gestione amministrativa del potere. Al che va aggiunta la terza questione, quella del parlamentarismo, delle disfunzioni del Parlamento e della Camera rappresentativa in particolare, la questione del trasformismo, del mancato bipartitismo nel nostro Paese, del mancato partito della borghesia. Per la verità va detto che se noi dovessimo adesso fare una rassegna degli studi sulle trasformazioni, sulle vicende istituzionali dello Stato liberale, noi oggi dovremmo riconoscere che c'è un'altra ottica, quella abbastanza prevalente, cioè l'ottica del rapporto Stato ed economia, l'ottica del rapporto Stato e capitalismo. Va anche detto però che questo è un filone di studi che si è venuto sviluppando in particolare nell'ultimo ventennio e che insiste molto sulla tematica della continuità fra autoritarismo dello Stato, per così dire, e sfruttamento capitalistico. Questa è una tendenza che ha portato ad alcuni approfondimenti delle vicende istituzionali, ma che in ogni caso manifesta un certo disinteresse per il funzionamento delle istituzioni in quanto tale. È chiaro che a questo filone di studi noi dobbiamo l'approfondimento del rapporto fra prefetti, accentramento e gestione del consenso alla classe politica al potere. A questo filone noi dobbiamo l'approfondimento degli studi sul ruolo della burocrazia per quanto riguarda l'espansione del capitalismo e dell'industrialismo nel nostro paese. In ogni caso però anche in questo filone di studi, che oggi per taluni profili è abbastanza prevalente, noi dobbiamo riconoscere che in fondo si continua a ruotare attorno a quelle tre questioni che io ho sopra richiamato: quella del decentramento, quella della giustizia nell'amministrazione e quella del parlamentarismo. Innegabilmente la storiografia non poteva e non può prescindere dalla ricostruzione e dalla interpretazione del rilievo assunto dalle tre questioni anzidette. e del loro porsi alla fine come aspetti di difficoltà contingenti o durature nel rapporto Stato-società, nel rapporto politica e amministrazione, nel rapporto pubblico-potere ed economia. Quale via, in ogni caso, per individuare i problemi di fondo per il dispiegamento nel nostro Paese dello Stato liberale, nei suoi profili di Stato nazionale unitario, di moderno Stato rappresentativo di diritto e di Stato borghese e capitalistico. Il guaio è però che la storiografia è rimasta a lungo e rimane tuttora, per certi riguardi almeno, notevolmente condizionata dalla forte ideologizzazione assunta dal dibattito su tali questioni nell'Italia liberale, anche in conseguenza delle tradizioni peculiari della cultura politica italiana. Qui richiamo le note pagine di Gramsci sulla tendenza agli universali dell'intellettuale italiano, oltre che in relazione agli svolgimenti di una lotta politica dominata ieri come oggi nel nostro Paese dal problema della legittimazione al governo. Il nostro, in fondo, è il Paese nel quale il dibattito politico, come dimostrano anche ultimissime vicende, è ancora dominato da una battaglia più o meno sottile o più o meno scoperta, volta a delegittimare gli avversari come possibili governanti. Per la verità, non sono mancate significative prese di coscienza circa la necessità di valutazioni più spregiudicate e realistiche a proposito di quelle questioni. Già Croce, Volpe e l'ultimo Salvemini avevano, ognuno a suo modo, richiamato l'opportunità di ridimensionare la portata degli scontri politici sul decentramento in particolare, con inviti a disanime realistiche degli aspetti quasi rituali assunti dal dibattito su tale questione e delle implicazioni contraddittorie e comunque non sempre progressive, per esempio, presenti nel dibattito sul decentramento. Ulteriori e spesso decisive indicazioni in tal senso, cioè su questo invito al realismo, allo spirito critico nell'esamine di queste questioni di fondo, si sono poi avute a partire dall'inizio degli anni 60 con gli sviluppi di storiografie nel nostro Paese di ispirazione gramsciana, di ispirazione weberiana, di ispirazione cattolica, di ispirazione liberale, sempre più sensibili in ogni caso alle vicende istituzionali. Come risulta anche dalle belle rassegne da ultimo della Zanni Rosiello e di Melis, nel corso degli anni 60 e 70, Ragionieri e Caracciolo, Miglio e Benvenuti, gli studiosi legati all'ISAF e alla FISA, nonché ai Quaderni Storici, la rivista di Caracciolo, e alla rivista trimestrale Diritto Pubblico, e cioè Giannini e Cassese, hanno progressivamente esplicitato in essi, fra gli scontri a livello di classe politica e di opinione pubblica a proposito del decentramento della giustizia nell'amministrazione e del parlamentarismo, e gli svolgimenti fra questi scontri le vicende della lotta di classe, delle battaglie per il potere e per l'egemonia, dell'andamento in generale del processo di modernizzazione borghese e capitalistica della società e dello Stato nel nostro Paese. Non hanno mancato però di farsi sentire in tali approfondimenti assolutizzazioni più o meno decise e consapevoli di punti di riferimento marxisti, liberal-democratici o radical-democratici che hanno rallentato una storicizzazione sempre più critica nel settore. La realtà è che le tre questioni sopra richiamate sono rimaste aperte anche negli ultimi decenni, così come sono aperte adesso nel nostro Paese, sebbene in termini diversi rispetto a quelli dell'Italia liberale, ma non senza talune continuità rilevanti alla fine. Ciò ha portato e porta la storiografia ad accentuare la propensione ad impegnarsi più o meno dall'interno nella lotta in corsa attorno a queste tre questioni tra le varie forze politiche e sociali. E soprattutto questo, noi abbiamo una meravigliosa tradizione che è quella della storiografia di corte, e cioè la storiografia si impegna molto da noi nella giustificazione della coerenza in sede storica delle diverse scelte di campo ideologiche ed operative da parte delle varie forze. Emerge qui, a mio avviso, anche lo scotto pagato, pure dall'ultima storiografia, con il ritardo, non tanto a livello teorico magari, quanto a livello di concreta applicazione, nel recepire e nel misurarsi comunque in modo adeguato con stimoli e prospettive della sociologia e della politologia nei loro vari filoni, oltre che della psicanalisi delle altre scienze sociali ed umane, il che ha reso e rende in ogni caso più difficoltosa e schematica l'analisi della complessa evoluzione del potere statale nell'età moderna e contemporanea e del suo rapporto con l'organizzazione della vita individuale e collettiva nell'età del capitalismo di mercato e poi del capitalismo organizzato. Adesso, a mio avviso, si impone la necessità di muoversi con maggiore decisione e con reale apertura interdisciplinare in alcune direzioni prospettate del resto, sia pure in linea di massima, dalla storiografia più avvertita nell'ultimo ventennio. E questa la via per rimettere in moto il dibattito bloccato, almeno in parte, da contrapposizioni ideologiche, sulla obbligatorietà o sulla arretratezza delle soluzioni prevalse nella costruzione dello Stato liberale italiano, sottoponendo a nuove verifiche le conclusioni più valide e significative raggiunte dalla storiografia nell'ultimo ventennio ed acquisendo ulteriori elementi per la comprensione della portata di quell'accentramento politico ed amministrativo, di quella crisi funzionale e strutturale della burocrazia e del Parlamento costituenti, ieri come oggi, nodi centrali della vita del Paese e del suo sviluppo. Ragionieri e Romeo, Caracciolo ed Acquarone, Carrozzi e Tranfaglia sono venuti, pur per vie diverse, ad indicare come indispensabile il superamento dell'italocentrismo vecchio e nuovo per la lettura della storia d'Italia nel Risorgimento e nell'età dello Stato unitario. Ed hanno insistito sull'esigenza di collocare tale storia in quella europea ed in quella mondiale del periodo ed in generale nei processi di affermazione della borghesia nell'ambito delle rivoluzioni politiche nazionali, capitalistiche ed industriali con un approfondimento in tale contesto del caso italiano. È stata richiamata in proposito l'opportunità di tener conto degli studi storico-economici sulla modernizzazione capitalistica e sulle sue fasi. Tanto per essere chiari, questa è un'indicazione che non viene tanto dalla storiografia marxista, ma in particolare per esempio da Romeo. Si tratta di un suggerimento prezioso che va però ampliato. Esso deve essere esteso agli studi politologici e sociologici sulla modernizzazione politica. E questo del resto l'operazione avviata con successo dai filoni tradizionali e nuovi della storiografia sociale, strutturale, tedesca soprattutto, secondo i richiami in particolare di Schiera. Non credo che mi faccia velo né l'amicizia né la gratitudine per l'ospitalità anche in questa occasione, se sottolineo l'importanza che ha avuto per il nostro paese almeno l'opera avviata da Schiera, prima con una serie di traduzioni e poi di introduzioni dirette a far conoscere alcuni sviluppi significativi in questo senso. D'altra parte, come si vedrà, il mio affetto per Schiera non arriva al punto di essere poi sempre d'accordo con lui. Sul punto, comunque, occorre evitare l'assunzione acritica di tendenze presenti nel primo tipo di studi, quelle sulla modernizzazione capitalistica, e si spingono a focalizzare l'attenzione sulle vicende dello Stato, per quanto riguarda le vicende dello Stato, unicamente o quasi sul rapporto lineare o contraddittorio con gli svolgimenti dell'economia capitalistica. Lo stesso vale per le tendenze operanti nel secondo tipo di studi, che spingono ad ipostatizzare l'affermazione della liberal democrazia, specie nelle versioni anglosassone, quale culmine della razionalizzazione del potere statuale. Io lascio qui cercherò di compiere un'operazione abbastanza difficile. La prima è quella di richiamare dati di fondo e problemi universali, e l'altra è quella di farlo per accenni, col rischio quindi di sfociare o nella banalità o nella genericità. Ma per esempio su quest'ultimo punto, tanto per essere estremamente concreto, se loro vogliono avere anche fisicamente di fronte un campione di questa tendenza, ce l'hanno al mio fianco. Il professor Matteucci, per esempio, è uno di quelli che ritiene essere la liberal democrazia il culmine più o meno insuperabile della modernizzazione politica. Particolarmente illuminanti si rivelano in ogni caso spunti ricavabili dagli sviluppi introdotti negli studi politologici e sociologici sulla formazione e le trasformazioni dello Stato moderno, ad opera da ultimo di Tilly e di Poggi, sulla base, fra l'altro, dell'assunzione dei più validi risultati raggiunti in sede storiografica e dell'affinamento per tale via della verifica delle specificità, delle complessità, delle contraddizioni del fenomeno Stato moderno. Tali spunti consentono di approfondire alcune costanti della vicenda statuale, superando sia le assolutizzazioni, le ipostatizzazioni, per così dire, in termini di Stato soggetto, e cioè di Stato quale elemento insostituibile per la garanzia dell'ordine e del progresso, della libertà e dell'autorità, o in termini di Stato oggetto, e cioè di Stato quale strumento di dominio e di sfruttamento, nonché in generale le assolutizzazioni di parte liberale e di parte marxista a proposito di forme di sviluppo dello Stato nell'un senso e nell'altro, alla fine unilineari. Tali spunti permettono di cogliere maggiormente l'incidenza di una serie di condizionamenti strutturali sottesi allo svolgimento della vicenda statuale in Europa e gettano luce sul rilievo di peculiari contesti economici e sociali, politici e culturali, portando alla ribalta il peso del passato, il ruolo della tradizione, oltre all'incidenza del momento carismatico, anche nel processo di progressiva legalizzazione del potere statale. E cioè anche nel momento in cui, a proposito del dibattito di questa mattina tra sovranità dello Stato e sovranità del principe, anche nel momento in cui la soluzione brillante di compromesso è quella della sovranità della legge, anche in questo momento sia il peso della tradizione, sia il peso del leader carismatici, a mio avviso, rimangono decisivi per spiegare il funzionamento dello Stato liberale, nonché in generale sugli effetti, anche in tale fase, della persistenza dello scontro amicus hostis, per riprendere la tematica di Smith, accanto alla prospettiva dell'allocazione autoritaria delle risorse, razionale soprattutto rispetto alle esigenze delle forze dominanti. Vale qui la pena di richiamare alcuni elementi posti in risalto da ultimo da Poggi, utili per impostare la verifica dei problemi e delle tendenze di fondo dello Stato moderno europeo nella fase liberale e del caso italiano in materia, e questo specialmente a livello di legittimazione ed esercizio del potere statale. Ecco, dico subito che io ritengo che sia per prendere coscienza della validità di alcuni dei risultati raggiunti dalla storiografia fino ad ora, sia per mettere in discussione gli aspetti di questi risultati che secondo me risultano più datati, occorre impiegare queste categorie, che non è poi neanche che tra l'altro abbiano il pregio della originalità, avendo dietro, come tutti sanno, e che loro certamente sanno, voglio dire, il grande nome, per esempio, di Weber. Poggi assume talune indicazioni significative della storiografia tedesca, soprattutto quelli sulle quali ha richiamato l'attenzione da noi schiera, seppur con accentuazione di volta in volta diversa a seconda di suoi abbandoni personali verso Smith o verso la scuola di Francoforte o verso il marxismo più o meno critico. Poggi insiste poi sul rilievo mantenuto anche dopo la rivoluzione aristocratica e borghese, che hanno portato al passaggio dalla monarchia assoluta allo Stato costituzionale, il peso mantenuto dal sistema degli Stati europei, per il funzionamento di ognuno di essi, per la sanzione della sovranità esterna ed interna di ognuno di questi Stati, per il mantenimento della unitarietà del dominio, per una gestione del conflitto con il nemico esterno, impiegata anche per ridimensionare i conflitti interni di classe o meno. Un'altra indicazione importante di Poggi è quella che sottolinea la impraticabilità, alla fine, di una legittimazione dello Stato costituzionale liberale in termini di sola legalità. In fondo, per esempio, stamattina notavo un po' stupito che parlando del realizzazione dello Stato liberale in Germania, nella seconda metà dell'Ottocento, non si parlasse dello Stato di diritto del Reichstag, mi scuso per la pronuncia ma non è il meglio nel mio caso, che invece costituisce ovviamente una delle dimensioni fondamentali dello Stato liberale in Italia e in Europa. Voglio dire, è una dimensione che è trapassata anche al successivo Stato democratico o liberal-democratico. Bene, una dei dati sui quali richiama l'attenzione Poggi, nella linea ancora una volta di Smith e di un certo Weber, o meglio del Weber di certi anni, è che la legittimazione in termini di legalità, e cioè il fondare lo Stato sul primato della legge universale ed astratta, alla lunga non regge, e cioè occorre in questo ambito richiamare qualche cosa d'altro. Questo qualche cosa d'altro che Weber e i liberali poi in realtà hanno individuato nella nazione, e che in ogni caso noi oggi, impiegando questi termini sociologici e politologici, possiamo indicare come necessità di combinare il richiamo alla legalità col richiamo a valori culturali tradizionali e col richiamo ad elementi carismatici per quanto riguarda l'esercizio del potere. Quella che emerge è una debolezza di fondo nella giustificazione dello Stato in termini razionali universalisti, e cioè in altri termini nella creazione sulla base della legge generale ed astratta e del suo primato, della creazione per questa via di un consenso allo Stato persona, allo Stato apparato, allo Stato macchina, allo Stato burocrazia, e alla unificazione attorno alla legge dello Stato, quello che noi chiamiamo lo Stato comunità, e cioè della società nel suo complesso, con la necessità appunto di trovare altre forme per coinvolgere le masse nell'esercizio o comunque nella giustificazione del potere, richiami di solito di derivazione nazional tradizionale o comunque sacral tradizionale, il tutto in un contesto che vede poi la contemporanea necessità di sottrarre alle masse stesse un'incidenza effettiva nella gestione ultima del potere. Quella che emerge a ben guardare è la fragilità della realizzazione del progetto liberale circa l'aspetto dello Stato e della società e del loro rapporto. Fragilità dovuta alle contraddizioni interne e dagli ostacoli esterni incontrati dalle scelte ideologiche e dalle scelte operative sottese dal progetto e dei compromessi. Questo è un punto fondamentale, secondo me, per cogliere il funzionamento dello Stato liberale, e dei compromessi a livello istituzionale, politico e sociale, economico e culturale, realizzati in proposito. Ho parlato di progetto liberale. In realtà bisogna parlare di progetti liberali. Stimolanti si rivelano qui alcune indicazioni di Matteucci sulle implicazioni culturali del liberalismo e delle sue prospettive politico-istituzionali. Dico subito, poi, se non riesco a seguire Matteucci in alcune sue ipotetizzazioni come valore assoluti delle conquiste liberali, che lo portano poi a leggere, ed è significativo, la storia del pensiero politico dopo Tocqueville come decadenza quasi. E questo deve essere un motivo di polemica civile e affettuosa fra lui e me, ma sulla quale, se avete un momentino di pazienza, potete poi assistere al nuovo capitolo. Matteucci richiama la compresenza in quello che egli definisce giustamente il clima liberale di momenti illuministici e di momenti romantici, di momenti nazionalistici e di momenti razionalistici, con la ricerca di un giusto milieu, di un giusto mezzo, che porti alla composizione dei vari elementi sopra richiamati, con la situazione poi dell'uno o dell'altro, a secondo, voglio dire, delle varie realtà anche storiche. Così noi abbiamo un liberalismo utilitarista ed un liberalismo etico, con precise implicazioni per l'organizzazione del potere statale, un liberalismo individualista e un liberalismo organicista, un liberalismo più legato alle forze dell'aristocrazia terriera e un liberalismo più legato alle forze della borghesia capitalistica ed industriale, un liberalismo venato di giacobinismo e un liberalismo venato invece di pluralismo, un liberalismo nazionale e nazionalista e un liberalismo cosmopolita. Matteucci pone in risalto un elemento molto importante, e cioè il fatto che i vari movimenti liberali vengono a far proprie, anche qui con diverse accentuazioni, le conquiste in tema di costituzionalismo delle rivoluzioni aristocratiche e borghesi del 600 e del 700. Il dato significativo è qui, a mio avviso, che tale modo di procedere mette in luce il limitato interesse da parte dei movimenti liberali per i problemi dello Stato e per l'organizzazione del potere politico. Dicendo meglio, l'interesse nel settore è focalizzato su alcuni punti specifici. Quello della limitazione del potere statale, quello della sua funzionalizzazione all'affermazione dell'individuo, dei suoi diritti, nonché delle formazioni naturali della società e della loro auto-organizzazione attorno al mercato. I motivi, in altro senso, del dispiegamento di un governo parlamentare, di uno Stato rappresentativo, che consenta ai savi, attraverso il confronto delle idee, attraverso il dispiegamento, per dirla con Habermas, dell'opinione pubblica, di arrivare alla formazione della legge generale d'astratta, consenta di realizzare la sovranità della legge di ragione. Ripeto, rispetto al dibattito di questa mattina, io credo, e non credo di essere fuorviato solo dai dibattiti italiani, che per quanto riguarda il movimento liberale il problema non è semplificabile nell'alternativa sovranità del principe, sovranità dello Stato, perché in mezzo ci sta il problema della sovranità della legge, che è, se volete, alla fine l'escamotage inventato per risolvere, per quel tanto che serviva, questo tipo di problemi. C'è, dal punto di vista istituzionale, il rifiuto degli estremi, il rifiuto cioè della monarchia dispotica da una parte e della democrazia giacobina dall'altra, con la ricerca di un giusto mezzo che valorizzi l'autonomia del privato e del sociale, che rimane centrale nel movimento liberale, come mostrano anche le conclusioni, per esempio, di Tocqueville e di John Stuart Mill. Con la delega, ecco la conseguenza poi per quanto riguarda i problemi del politico e della gestione del potere, ad un potere statale, con la delega per la gestione complessiva della società poi, ad un potere statale più o meno misto, voglio dire, ecco, a proposito di potere misto, giustamente il Nicola Matteucci mi invitava a ricordare i suoi studi fondamentali. I studi fondamentali di Matteucci è, per esempio, che per quanto riguarda il costituzionalismo europeo, questo trova una delle sue conquiste fondamentali nella riproposizione progressiva, attraverso aggiustamenti, appunto dell'idea dello Stato misto, cioè dello Stato in cui il governo è diviso fra l'uno, i pochi e i molti. Di volta in volta poi cambiano, voglio dire, le entità che sostanziano questi tre momenti, ma di solito l'uno è la monarchia, i pochi è o l'aristocrazia o la oligarchia, i molti, voglio dire, sono il popolo. Voi sapete poi che, voglio dire, dal punto di vista istituzionale c'è il modello inglese al quale va l'affezione anche intellettuale di Matteucci, cioè corona, camera dei lord, cioè rappresentativa degli strati più alti, e camera rappresentativa del resto. C'è il rifiuto degli estremi, quindi. C'è il rifiuto della democrazia dispotica, dicevo, della democrazia giacobina, col fatto però che alla fine, per quanto riguarda la gestione del potere politico, prevale la tendenza ad abbandonarsi alla gestione di un potere statale più o meno misto, più o meno separato, più o meno limitato e diviso, più o meno controllato soprattutto dagli esterni agli inizi e poi progressivamente anche dall'interno. Matteucci fornisce un'altra indicazione preziosa, pur senza ricavarne poi, secondo me, tutte le conseguenze. Ed è il richiamo al fatto che per buona parte dell'Ottocento il sistema dominante nei paesi che vedono successi più o meno grandi dei movimenti liberali è costituito dalla monarchia dualistica. e cioè dalla monarchia condizionata dal Parlamento, nelle versioni poi della monarchia costituzionale o della monarchia parlamentare. Ciò che segna, a mio avviso, il risvolto istituzionale del giusto mezzo sopra richiamato. Matteucci, credo anche sotto lo stimolo... Non devi parlare di me. Stoppi pazienza, no, questa è la tua convinzione. Tu non dici sempre, Michele. Matteucci, credo sotto lo stimolo anche di Schiero, così adesso li mettiamo assieme tutti e due, non manca di accennare anche al tentativo liberale, continentale soprattutto, di costruirsi, il tentativo dei movimenti liberali continentali, di costruirsi un proprio Stato, e cioè lo Stato di diritto. E il tentativo sostanziatosi, per riprendere, per quanto riguarda il nostro paese, le indicazioni di De Ruggero, nella ricerca di realizzare uno Stato dominato dalla rule of law come in Inghilterra, oppure dalla Reichstag come in Germania, oppure dalla separation de pouvoir come in Francia, o di infine, come nel caso italiano, su connubi più o meno mostruosi fra gli aspetti degli altri tre. Illuminanti si rivelano in proposito anche qui, sono indicazioni di Schiera, anche se poi mi sembra che egli, per altro verso, tenda a fare la stessa operazione di Matteucci, e cioè ad assolutizzare alcuni punti di riferimento, il caso tedesco e la critica smithiana o marxista o franco-fortese, con l'abbandono poi anche della prospettiva della decadenza più o meno fosca dalla fine dell'Ottocento in poi. In sostanza, anche tramite Schiera è possibile, per quanto riguarda questo Stato di diritto, vedere come nel continente si abbia la ricerca di uno Stato di diritto che venga a sostanziarsi nella volontà di organizzare il primato della legge attorno al collegamento con un ordinamento giuridico ed economico posto come naturale, perfezionando per tale via l'astrazione, proprio in senso letterale, della legge dal condizionamento delle masse e dal controllo delle forze subalterne, con il potenziamento delle caratteristiche in tal senso dello Stato moderno europeo, e cioè con l'accentuazione del suo momento di Stato ordine razionale e di Stato macchina burocratica, funzionalizzato all'individualismo possessivo borghese e allo sfruttamento capitalista. La realtà è che questi tentativi quella successiva alle rivoluzioni del 1848 e agli sviluppi della industrializzazione. In sostanza io ritengo valida l'indicazione di Kuhn, che sottolinea Kuhn, due forme di dominio borghese, liberalismo, Kuhn. No, con la L. Mi scuso, ma l'avevo detto prima, la pronuncia non è il mio forte, ecco. Cioè ci sono due quasi entrambi di fascismo, tanto per essere chiari, questo è quello con l'aereo Rhein, ecco. Oh, mi scuso, io avevo sono quasi perfetto, ma sulle lingue ho un qualche colpo ogni tanto. In sostanza ritengo valida l'indicazione di quel personaggio che sottolinea la necessità di fare i conti e di richiamare le due fasi del liberalismo, quella appunto, quella offensiva fino alla metà dell'Ottocento, e che vede la spinta di possidenti ed intellettuali per lo Stato rappresentativo, per la monarchia parlamentare, per una costituzionalizzazione ed una limitazione del potere monarchico che consente di valorizzare la libertà individuale e collettiva e che consente di organizzare la società civile attorno ad essa. Una società civile a base rurale, una società civile agli inizi dell'industrializzazione capitalistica. E poi vi è la seconda fase, la fase difensiva, quella che inizia con la seconda metà dell'Ottocento e che vede la spinta di forze borghesi più o meno legate al capitalismo e all'industrialismo, che vede la spinta di queste forze verso lo Stato di diritto in vista della neutralizzazione delle masse in ascesa nell'ambito dell'espansione capitalistica e di una loro integrazione in uno Stato nel quale in ogni caso sia sottratto loro il governo effettivo. Sono le due fasi connesse alla fiducia iniziale, nell'adeguamento più o meno automatico della società e delle sue forze a quell'ordinamento giuridico e naturale posto come naturale, che è l'ordinamento del mercato e del capitalismo concorrenziale e che è dal punto di vista sociale l'ordinamento del sistema dei notabili aristocratici e borghesi e dell'opinione pubblica. Vi è poi una seconda fase che è segnata dalla progressiva scoperta da parte dei movimenti liberali della impraticabilità di tale ordinamento, dei ritardi e dei rifiuti delle varie forze della società nei confronti di questo ordinamento e di suoi sviluppi nell'ambito del capitalismo. Questo, guardate bene, a mio avviso almeno, con la scoperta da parte dei movimenti liberali delle possibilità offerte dallo Stato, dal suo monopolio del potere politico, dai suoi apparati burocratici, per avviare a realizzazione l'ordinamento antidetto, cioè oggi diremmo per gestire le fasi di transizione fra una società preliberale e una società liberale. Scopre la possibilità offerta dallo Stato per accentuare, per esempio, per imporre alle masse, i sacrifici, diremmo noi oggi in Italia, necessari per realizzare questo tipo di società. Le possibilità offerte dallo Stato per accentuare il richiamo nazionalistico e la lotta al nemico esterno quale base per il superamento delle contraddizioni e delle divisioni più o meno insanabili delle varie società all'interno. Questo con il tentativo di astrarre, anche qui in senso letterale, dalle masse la gestione del potere effettivo attraverso la imparzialità dell'esecutivo e dell'amministrazione. Noi oggi parliamo molto di partecipazione, eccetera, no? Invece si usa il concetto esattamente opposto, cioè un'amministrazione, un esecutivo fuori dalle parti, un'amministrazione sottoposta alla legge, e non è un caso che la principale scienza dello Stato, cioè quella giuridica, nel corso dell'Ottocento si impegna appunto nell'opera di progressiva di tutti i concetti che riguardano lo Stato in questo senso. Cioè, e voglio dire, tendenza che poi si sostanzia nella scelta formalistica da parte della scienza giuridica tedesca come italiana, cioè nella lettura per questo tramite dei problemi dello Stato. In definitiva, i movimenti liberali sono venuti a porsi il problema dello Stato, del loro rapporto con lo Stato moderno europeo, con le monarchie assolute e con le monarchie costituzionali, poi quali realizzate dalle rivoluzioni anglosassone e francese, il problema dell'adeguamento alle loro istanze nei vari campi, della legittimazione dell'esercizio del potere politico nell'ambito dello Stato, sono molto posti tutti questi problemi, ecco secondo me un dato, voglio dire, ovvio, ma sul quale noi non ripetiamo abbastanza, nell'ambito di una battaglia, per così dire, su due fronti. E cioè, da una parte il dispotismo monarchico e dall'altra la democrazia totalitaria o meno. Naturalmente, come insegna von Clausewitz, non so se pronuncio giusto, ma immagino che tutti sappiate a chi mi riferisco, no? Tali movimenti erano destinati al fallimento, continuando nella lotta su due fronti. Così, per con i resti di queste ultime in vista del condizionamento delle masse in movimento e comunque in ascesa. Il tutto nell'ambito di collegamenti non sempre lineari, peraltro, al di là, voglio dire, di certi insegnamenti del marxismo più dogmatico, insisto, non sempre lineari, peraltro, con le forze alla testa dell'economia capitalistica e di mercato, in vista comunque del condizionamento delle masse. Di qui la spinta ad un giusto mezzo per quanto riguarda la fondazione del potere statale e la sua attività. Giusto mezzo volto a mettere in equilibrio i tre elementi intorno ai quali non a caso ha rifiutato svuotato la riflessione giuridica nell'Europa continentale nel corso dell'Ottocento e del primo Novecento, e cioè istituzione monarchica, Stato rappresentativo di diritto e Stato organico. Gli equilibri posti in essere in proposito sono stati diversi, con accentuazione dell'uno o dell'altro elemento. Significativo però, a mio avviso, è la fragilità, la debolezza degli equilibri raggiunti fra questi tre elementi e il loro rapido mutamento. Un punto deve essere chiaro: c'è stata sempre una impossibilità, un'estrema difficoltà e una impossibilità da parte del movimento liberale a puntare su uno solo di questi elementi. Io da questo punto di vista, voglio dire, mi scuso rispetto alla relazione di questa mattina, che per alcuni spunti, poi dopo si vedrà anche nelle conclusioni, ho trovato estremamente affascinante ed interessante. Ma per esempio, mi scuso perché forse il mio intervento è fuori fase, vista la difficoltà della lingua, però io non ritengo che si possa, per esempio anche parlando dei movimenti liberali in Germania, limitare il discorso sul liberalismo, per quanto riguarda il suo rapporto con lo Stato, al problema del governo rappresentativo. Questo è uno degli elementi, una delle prospettive, una delle ipotesi sullo Stato del movimento liberale, ma non è esaustiva, perché anche in Germania, per quel poco che io ne so in base alle traduzioni o in italiano o in lingue per me più accessibili, cioè, voglio dire, non è possibile, voglio dire, non mi sembra che il problema del liberalismo sia stato il problema del governo rappresentativo, perché in realtà tutto il movimento liberale, sia per i suoi legami con le forze borghesi in ascesa, sia per i filoni intellettuali ai quali si richiama, si trova a dover fare i conti con tutti e tre questi elementi. Ripeto, istituzione monarchica, governo rappresentativo, Stato rappresentativo di diritto e Stato organico, Stato nazionale. Anche qui adesso, voglio dire, si potrebbero individuare tutta una serie di tendenze dominanti nei vari paesi, nelle varie fasi. Anche qui l'equilibrio raggiunto fra questi tre fattori è cambiato di volta in volta. È cambiato, ad esempio, secondo che in un paese il liberalismo fosse all'offensiva o sulla difensiva. Io credo però che occorre capire perché i movimenti liberali, i movimenti liberal-borghesi, i movimenti liberal-borghesi ed aristocratici dovevano fare i conti con questi tre fatti. Il problema della corona. Cosa significava la corona? Cosa significava la monarchia? Significava impiegare la struttura esistente e la struttura che aveva una forza tradizionale per gestire la unificazione della società. Ieri giustamente il professor Vandrus richiamava questa tendenza ai beati possidentes, cioè a rafforzare, a gustare e a gestire l'esistente. Per quanto riguarda il politico, uno degli aspetti di questo esistente è la monarchia. E voglio dire, la monarchia viene impiegata per quello che serve in questa direzione. Certo, siamo attenti, poi noi sappiamo che si verifica sotto sotto un processo, che è questo. Il progressivo emergere nell'istituto monarchico, o forse meglio nel governo monocratico, della dimensione carismatica. Noi sappiamo che in Germania questo si realizza attraverso la realizzazione del cancellierato di ferro. Sappiamo anche che un processo di questo tipo si realizza in Inghilterra con il progressivo trasferimento dei poteri dalla corona, per esempio, al premier, no? E cioè è chiaro che progressivamente, aumentando per così dire il movimento della società, quella funzione di unificazione viene più svolta da un potere monocratico a base carismatica che non a base tradizionale come la corona. Però il richiamo alla corona, il richiamo al governo monocratico è fondamentale per il liberalismo. Secondo punto, il problema dello Stato di diritto o dell'affermazione del principio di legalità. Anche qui secondo me emerge un'altra dimensione tipica di questi movimenti liberali. Ed è questa, la ricerca di un potere arbitro, di un potere che governi, che gestisca i rapporti complessivi di una società attraverso il modello del giudice. Noi, voglio dire, con Weber possiamo richiamare il modello del condottiero, possiamo richiamare il modello del profeta, però per quanto riguarda i movimenti liberal-borghesi, secondo me c'è l'esigenza di arrivare a un potere giudice, a un potere arbitro, ma questo si spiega, perché in realtà nel momento in cui ci si convince che la gestione effettiva dello sviluppo del singolo e della collettività passa attraverso la libera manifestazione, la libera estensificazione delle potenzialità e dell'individuo e della società nel suo complesso, il problema, cioè ciò che si chiede al potere statale è per un verso la imparzialità, ma per altro verso è appunto l'arbitraggio, e cioè la sanzione di una serie di controversie o conflitti. Cioè, mi spiego a contrario, non c'è bisogno di un potere particolarmente attivo, non c'è bisogno di un potere che intervenga, c'è bisogno di un potere che arbitri. Guardate bene che questa è una dimensione che viene da molto lontano, viene, no, ma anche da prima, cioè i grandi giuristi tedeschi, no, nel corso dell'Ottocento erano soliti, come sa bene il nostro amico Astiera, fare una rassegna sulle varie forme di governo e di amministrazione. E una delle forme classiche è appunto il governo attraverso i giudici. D'altra parte, inciso, voi sapete che per esempio per una parte della storia costituzionale degli stessi Stati Uniti si parla del governo dei giudici. Tanto per dire che quindi io mi richiamo a una dimensione che non è una dimensione stravagante, è una dimensione importante, che si collega a certe idee sulla società, a certi equilibri di forze e così via. Guardate bene che poi dietro questo aspetto ce n'è un altro, ed è che questo tipo di potere è il potere più consono al funzionamento di una oligarchia che ha bisogno di contrattare i propri rapporti, che ha bisogno di contrattare i propri conflitti. Vedremo che nella seconda metà dell'Ottocento è questa dimensione del potere arbitro che prevale. Terzo elemento, stato organico, stato nazione. Beh, a che cosa serve questo? Serve al richiamo dei momenti comunitari, cioè, voglio dire, di quella identificazione comunitaria, tra l'altro necessaria per collegarsi con le masse. In fondo i movimenti liberali, i movimenti liberal-borghesi, i movimenti costituzionali si sono trovati di fronte al problema di mettere in discussione il peso del passato e della tradizione per quanto riguarda la richiesta di obbedienza al potere politico, e al tempo stesso si sono trovati di fronte al problema di dover coinvolgere in qualche modo le masse. La nazione, il richiamo alla nazione, il richiamo alla tradizione nazionale, il richiamo alla comunità nazionale è stato uno dei modi per coinvolgere le masse. Guardate bene che, dovendo individuare delle linee di tendenza per quanto riguarda il rapporto fra movimenti liberali, movimenti liberal-borghesi e Stato, io credo che la linea di tendenza da individuare sia questa, e cioè la tendenza progressivamente a lasciare spazio al passato. La tendenza progressivamente, per dirla con Marx, a lasciar dispiegare il nocciolo duro dell'assolutismo rimasto presente nello Stato costituzionale. Cioè, tutti gli studiosi dei problemi dello Stato, come gli studiosi dei problemi del costituzionalismo, non hanno difficoltà a sottolineare, anzi ci richiamano alla necessità di tenere presente che alcune caratteristiche della monarchia assoluta, cioè che poi è la forma iniziale dello Stato moderno in Europa, rimangono presenti nella monarchia costituzionale, nello Stato costituzionale. Se per dirla con Weber lo Stato si caratterizza per il monopolio dell'uso della forza legittima, questa è una caratteristica che viene dagli inizi dello Stato moderno, ma che rimane anche nello Stato costituzionale. Ora, io credo che progressivamente il movimento liberal-borghese in difficoltà abbia lasciato spazio a questo nocciolo duro dell'assolutismo, a quello che restava dell'assolutismo nell'ambito dello Stato costituzionale. Vogliamo dirla in altri termini, vogliamo dirla con Tocqueville, tanto per far felice ancora una volta Matteucci. Progressivamente... Ma mi rendi felice con tutto quello che dici. No, ma di pazienza, cioè, io richiamo a Tocqueville, spero che serva come miele a molcere. Ecco. quello che viene fatto di spiegare è il nocciolo burocratico della solutrice, e cioè l'impiego degli apparati per gestire il rapporto, per dirla in termini ideologici, appunto il rapporto fra Stato e società. In sostanza, noi bisogna che facciamo i conti con movimenti liberal-borghesi che partono da questa idea. Esiste una società naturale, una società cioè che si regge su rapporti tra gli individui che sono rapporti naturali e fissati dal contratto. In questa società la legge di ragione si forma attraverso il contrasto, il conflitto, lo scontro formalizzato. In questa società non c'è molto bisogno di Stato. In questa società c'è bisogno di uno Stato che, voglio dire, arbitri una serie di rapporti, che garantisca rispetto a tutti il richiamo a quelle forme di identificazione comunitarie più accettate. Man mano che questi movimenti liberali prendono coscienza che questo ordinamento naturale non esiste e che vi sono delle forze nella società o che sono in ritardo, cioè diremmo oggi in sottosviluppo rispetto a questo sviluppo, oppure che rifiutano questo tipo di sviluppo. Man mano che, voglio dire, si prende coscienza di questo, si scopre che occorre organizzare il passaggio da una società non liberale a una società liberale. E il passaggio deve essere gestito dallo Stato. Ma da quale Stato? In particolare, voglio dire, da tutto quel complesso di apparati che la monarchia assoluta ha trasmesso allo Stato costituzionale. Quindi rimane il problema di una presenza capillare del potere statale nella società. Il problema è come organizzare questa presenza capillare. E da questo punto di vista dovremmo rileggere, per esempio, tutta la vicenda dei prefetti. Cioè, noi siamo soliti collegarli solo al problema delle elezioni, certo, ma il maneggio delle elezioni è solo l'epifenomeno di tutto questo. Cioè, è il problema di organizzare la transizione da una società non liberale a una società liberale, impiegando gli strumenti disponibili, che sono, gli apparati burocratici trasmessi dal basso. Però anche qui bisogna stare attenti, perché allora, se non facciamo una riflessione, non capiamo il caso italiano. Noi con Weber, il quale è assolutista il caso tedesco, siamo abituati a collegare gli apparati burocratici alla legalità, e cioè al problema di una giustificazione razionale universale del potere. In realtà, almeno questa è una mia convinzione, questi apparati burocratici, per funzionare, richiedono un potere che abbia anche una forte carica tradizionale e carismatica. Cioè, non è un caso che in fondo il famoso caso tedesco, che cosa vede? Vede questa burocrazia meravigliosa, ma è una burocrazia che ha dietro una corona particolarmente forte. E poi, la corona trasmessa una parte dei suoi poteri al cancelliere non cambia le cose. Cioè, la burocrazia, per funzionare, ha bisogno di un potere monocratico forte. Perché, d'altra parte, pensate a una delle caratteristiche fondamentali, il principio di gerarchia. Cioè, questo funziona nella misura in cui il vertice è in grado, ma non solo a livello di circolare scritta, ma a livello di costrizione mentale dei burocrati, di trasmettere impulsi. Quindi, Altra cosa importante da questo punto di vista: occorre impiegare lo Stato per passare dalla società non liberale alla società liberale, ma occorre anche fare i conti col fatto che questa società non liberale è in movimento, è in ribellione, è una società che, contesta sempre di più. E allora noi dobbiamo sottolineare il ricorso a un altro dato della tradizione statale europea, e cioè il ricorso alla guerra. Il ricorso alla guerra, guardate bene, come modo per realizzare all'interno determinate forme di unità. voglio dire, determinate forme di superamento delle divisioni. Il problema comunque rimane poi sempre quello di come realizzare la integrazione nel sistema liberale di Stato e società delle masse. Noi sappiamo che ci sono due fasi, la prima fase in cui si pensa che le masse opportunamente istruite arriveranno al liberalismo, sappiamo che progressivamente 1848-1870 la Comune si perde fiducia in questo. Allora, noi sappiamo anche che verranno adottate anche qui una serie di strumenti sostitutivi. Il primo è il processo di nazionalizzazione delle masse attraverso l'istruzione e la leva militare. Cioè quindi, ancora una volta, l'impiego di apparati. Poi sappiamo che l'altro grande strumento di integrazione tentato è quello del benessere. Solo che qui c'era un condizionamento preciso, che era il tipo di mezzo a disposizione. Noi sappiamo che, guardate che non è un caso, in certi paesi l'operazione riesce, in altri no. Gioca tutto il passato di quei paesi, però voglio dire, gioca il fatto che quei paesi avevano certi mezzi a disposizione e altri no. Per esempio, perché in Inghilterra il processo riesce e né in Germania e né in Italia no? Certo, gioca la capacità di classi dirigenti, gioca il passato di quei paesi, ma gioca anche il fatto che l'Inghilterra, essendo verso la fine dell'Ottocento ancora alla testa del processo di industrializzazione, è sicuramente il paese che ha più mezzi e quindi riesce a compiere questo tipo di operazioni. In ogni caso, a me preme di notare questo, che arrivati al dunque, avendo il problema di fondare lo Stato e di riorganizzare la società, i movimenti liberal-borghesi si trovano di fronte all'alternativa, io adesso semplifico e banalizzo, o fondazione dal basso o fondazione dall'alto. Fondazione dal basso voleva dire processo di democratizzazione accelerata, fondazione dall'altro voleva dire tante cose, voleva dire stato forte, voleva dire stato riformista, voleva dire stato che integrava, ma comunque stato che evitava in sostanza forme, per dirlo con termini attuali, di partecipazione reale delle masse al processo. Un punto è sicuro ed è che i movimenti liberal-borghesi arrivati a questo punto tentano di scegliere la seconda strada. Voglio dire, io anche questo richiamo delle banalità, ma bisogna avere questi punti di riferimento per cogliere, secondo me, anche poi le specificità del caso italiano. Allora, guardate bene, il tentativo sarà quello di unire nazionalizzazione attraverso la scuola e l'esercito, benessere, ricorso alla guerra. Ecco, per tentare un processo di integrazione delle masse nello Stato. Vorrà dire, da questo punto di vista, accentuare la richiesta di deleghe al potere statale, perché è la delega non solo per l'ordine, ma anche è la delega per lo sviluppo. E vuol dire anche chiedere e puntare a separare dal controllo effettivo dal basso questi apparati tradizionali nuovi che lo Stato impiega per, voglio dire, fare tutte queste cose. E ecco, per esempio, io c'è un punto nel quale sono in divergenza con il mio amico Stiera da questo punto di vista, perché lui, assieme ad altri, sono quasi tutti, voglio dire, volendo fare la battuta, quasi tutti all'infuori di me, ritengono che in sostanza il processo di laicizzazione e secolarizzazione tra 600 e 800 sia da completo. In realtà, secondo me, invece, il processo rimane a metà. E perché rimane a metà? Perché si è costretti a far ricorso a dati sacrali, tradizionali o carismatici, per bloccare certe forme di controllo da parte delle masse nei confronti della gestione del potere. Guardate bene che i modi sono i più sottili, sono il richiamo alla corona, sono il ricorso alla guerra, sono la individuazione di nemici interni o interni impiegata in un certo modo. Cioè, io credo che però sia importante anche per capire, per esempio, i problemi attuali e per capire che senso abbia studiare i problemi del liberalismo oggi. Cioè, per far questo, secondo me, occorre, questa è la mia tesi, partire dall'idea che il processo, come si chiama, di secolarizzazione, di laicizzazione, di razionalizzazione del politico, non viene completato in questo periodo, ma in questo periodo rimane a metà, secondo me. Parte bene, in questo modo io credo si crea una specie di circolo vizioso con il quale poi ancora oggi noi dobbiamo fare il conto. E cioè si dà spazio a certe forme di, sono costretto a usare termini modernissimi ma per semplificare, a certe forme di lotta, di contestazione da parte delle masse che si vedono di antistatalismo. Il movimento liberal borghese nasce con una sua vena antistatalista, pian piano scopre lo Stato e lo impiega, ma per queste chiusure stimola una lotta da parte delle forze escluse dove la vena antistatalista è presente. Quindi, che cosa fa, a mio avviso? Stimola un processo di deresponsabilizzazione, da questo punto di vista, delle forze organizzate e collegate alle masse. Stimola, in sostanza, un tipo di reazioni che per un verso indeboliranno ulteriormente lo Stato liberale, ma per altro verso aggraveranno la soluzione dei problemi di fondo, voglio dire, di fronte ai quali ancora oggi noi ci troviamo per quanto riguarda la richiesta di obbedienza al potere politico, per quanto riguarda i modi del suo impiego. Io stamattina trovo affascinante una delle conclusioni della relazione di Rao, e cioè quella del liberalismo come fase transitoria. Perché qui in fondo il dato che viene fuori è che il liberalismo, il complesso dei movimenti liberali, specie per quanto riguarda il rapporto con lo Stato, deve essere visto come una grande, gloriosa, stimolante, significativa fase di transizione fra una la giustificazione del potere richiamandosi al diritto divino dei re e l'altra, e l'unica altra possibile giustificazione del potere, che è quello della gestione diretta da parte del popolo. Una serie di tentativi illuminanti, perché voglio dire, ci hanno richiamato su alcune tendenze di fondo del potere, quali che siano le classi e le forze che lo gestiscono, e quindi con lo stimolo a prendere in considerazione tutta una serie di conquiste del liberalismo e del costituzionalismo eccetera. Però ecco, ho l'impressione che da questo punto di vista possa essere una fase transitoria. Io mi scuso di questa, che poi alla fine dovrebbe essere una specie di premessa, però poi il resto, poi dopo essendo stato così, voglio dire, diffuso, sarà molto più sintetico. Ma mi scuso e indico anche un rischio. È una serie di limiti presenti in questo modo di processo. Oggi chiunque studi i fenomeni in sede storica delle istituzioni, dello Stato assoluto come dello Stato liberale, come del successivo Stato liberale democratico, come dello Stato a democrazia totalitaria, tende più a introdurre, voglio dire, altri parametri. Non è un caso che la relazione di questa mattina sul sistema tedesco si intitolasse un sistema politico. Ciò che, voglio dire, richiama alla necessità di approfondire lo studio del funzionamento effettivo delle istituzioni, dei loro meccanismi, del meccanismo della distribuzione del potere, del rapporto tra le forze e così via. Accanto a questo c'è un'altra grande dimensione che oggi è al centro degli studi sulle istituzioni, ed è quella del rapporto Stato-economia, e del rapporto, per esempio, potere e composizione di classe, delle classi dirigenti e così via. Io ritengo che queste dimensioni siano dimensioni non solo importanti ma fondamentali. Ritengo però che, per esempio, dovendo trattare di liberalismo, non sia possibile e non sia corretto metodologicamente uscire da alcune dimensioni che sono state proprie dei movimenti liberal-borghesi nel trattare i problemi del potere politico, della sua giustificazione, del suo esercizio. Cioè, secondo me, non ha senso oggi, per esempio, dovendo trattare di paesi in età liberale nel corso dell'Ottocento, ridurre il problema del politico al problema del sistema politico. Perché, per esempio, per questi paesi non c'è niente da fare, c'è il problema dello Stato. Se poi che, richiamando del resto una cosa che sapevamo tutti, noi lo sapevamo via Germania, adesso lo sappiamo via Inghilterra grazie a Poggi, sottolinea la differenza di fondo fra lo Stato nei paesi anglosassoni e lo Stato nei paesi europei continentali. Per i paesi anglosassoni, anche qui mi scuso per la pronuncia, ma spero che nessuno possa permettere di intervenire, perché ufficialmente non c'è nessun inglese qui, no? Per i paesi anglosassoni lo Stato è convenient. Per i paesi europei continentali lo Stato is an entity. Il che, badate bene, non vuol dire che lo Stato sia tutto, o lo Stato sia la giustizia, o lo Stato sia la verità. Vuol dire però che quando gli intellettuali, le classi politiche, nei paesi europei continentali ragionano di politica, parlano di Stato. Voglio dire, o meglio, parlavano di Stato. Forse oggi parlano, voglio dire, usano altri termini, che so che per esempio sono nel nostro paese e seguono la sloganistica dominante, non parlano più di Stato, ma parlano di sistema di potere, diagramma. Cioè, se sono in altri paesi, parleranno di qualche cosa d'altro. Però, nel corso dell'Ottocento e del primo Novecento, chiunque nei paesi europei continentali volesse parlare di politica, parlava anche di Stato. Quindi, in fondo, la mia relazione, che non vuole assolutamente essere esaustiva di tutti i vari punti, vuole solo tentare di fare questo un discorso critico dall'interno anche delle dimensioni adoperate da questi intellettuali, da queste classi politiche per organizzare il potere. Cioè, questo qui andava richiamato, perché altrimenti voi, nel migliore dei casi, potete essere anche affascinati dai richiami che io ho fatto, però li potete anche trovare un po' stravaganti. In realtà il mio discorso venduto in soldoni è questo. Dobbiamo rinnovare la storiografia, cioè in questo senso, verificare una serie di conclusioni raggiunte, introducendo una serie di altri elementi che ci consentono di verificare meglio dall'esterno, ma anche dall'interno, voglio dire, le dimensioni proprie di questi, caro specifico, dei movimenti liberal-borghesi per organizzare il potere politico, per affrontare il problema dello Stato, per risolvere il problema delle contraddizioni contingenti o strutturali nel rapporto fra Stato e società. Altrimenti, badate bene, io adesso qui faccio un discorso interno all'Italia, altrimenti noi corriamo dei rischi molto grossi anche dal punto di vista del dibattito politico attuale, ed è che noi avvaliamo delle amenità, per esempio sull'autonomia del politico, che voglio dire, si giustificano solo appunto con il mancato impiego di questa categoria per tutto il periodo storico che adesso compete. Cioè, non si può sostenere che il problema dell'autonomia del politico è una scoperta degli anni 30 o di Gramsci o di Weber o di Fichte. Cioè, il problema, a livello al quale io ne ho trattato, dell'autonomia del politico, è una vicenda che accompagna tutto lo Stato moderno europeo. E adesso finalmente arrivo al caso italiano. Una delle tesi dominanti da ultimo è quella che fa del caso italiano, per quanto riguarda la realizzazione dello Stato liberale, una variante del caso tedesco. Una variante, o meglio, perché per noi tedesco non si usa, perché abbiamo ancora un certo rispetto reverenziale per il tedesco. Il caso prussiano, perché lì è più facile individuare il nemico. Ora, in realtà, ho l'impressione che il caso italiano e il caso tedesco siano due varianti di un caso un pochettino più generale, cioè quello dei paesi late joiner allo Stato, cioè arrivati per ultimi in sostanza allo Stato nazionale unitario. Per quanto riguarda i problemi dello Stato, questo è un primo richiamo da fare. È il trionfo dell'ovvio, Monsignore Di La Palizza sarebbe contento di me, però anche questo va ricordato, perché altrimenti non capiamo alcune cose. Secondo aspetto importante, una delle peculiarità del caso italiano qual è? Sono le caratteristiche di questi movimenti liberal nazionali, e una delle caratteristiche sulle quali concordano tutti, da Romeo a Rasomiri, dal professor Lantreva a Carrozza, eccetera, è il fatto che la molla che ha portato a far funzionare, diciamo, questi movimenti liberal nazionali da noi, questi movimenti liberal borghesi, non è stata principalmente una molla economica. Cioè, la molla non è la unificazione del mercato in vista dell'industrializzazione. Le molle, voglio dire, vengono piuttosto da motivi intellettuali, si parla di astrattezza, si parla di, alla fine, come voi sapete, Gramsci parlerà di passività anche per questo motivo. Cioè, è più la recezione di grandi valori e di grandi modelli legati all'esperienza straniera, o la rielaborazione, spesso anche geniale, di questo, no? Che non, per esempio, lo stimolo dell'economia. Un'altra delle caratteristiche che, voglio dire, è uno dei drammi del nostro paese, in tutti i grandi momenti di formazione, è la ristrettezza quantitativa, prima ancora che qualitativa, di questi movimenti. Cioè, queste sono elite molto ristrette, e sono elite che sono condizionate da questo. Ecco allora che per queste elite che cominciano questa battaglia sotto la spinta di motivi principalmente politico-ideologici, anche se naturalmente la dimensione economica non manca e non può mancare, per queste, diciamo, si pone subito il problema delle alleanze. Il problema è con chi allearsi e per fare che cosa. Allora, io adesso, semplificando, dopo poi nel dibattito magari potremo specificare, individuerei una prima alleanza, che è quella che viene fatta per costituzionalizzare il Piemonte. Cioè, la prima alleanza è l'alleanza per lo statuto in Piemonte. Ed è l'alleanza, in questo caso, fra tutte le forze borghesi, tutte le forze liberal-borghesi modernizzanti, contro le altre. Guardate bene che non è un caso che Cavour, quando dovrà difendere il Parlamento contro le prevaricazioni della corona, fa l'alleanza con la Tassa. Dietro al connubio c'è il problema del rapporto fra questi strati delle classi dirigenti liberali, diciamo, no? Il rapporto con la corona, che è un rapporto estremamente condizionato dal fatto che queste forze alla fine poi sono deboli. E ecco il punto: sono costrette a difendere il Parlamento contro la corona, e per farlo debbono, voglio dire, farlo assieme. Secondo, c'è l'alleanza per la costruzione dell'indipendenza nazionale, e questa è un'alleanza che coinvolge invece le forze democratiche, coinvolge il Partito di Azione e così via. Cioè, anche qui, per realizzare lo Stato indipendente, occorre un'alleanza. Anche qui non si può combattere con i due fronti, non può bastare la sola conquista resa, e questo è il secondo tipo di alleanza. I problemi veri, secondo me, scoppiano quando si tratta di consolidare questo Stato. Questo Stato che presenta le caratteristiche di essere unitario e di essere costituzionale. Allora c'è il primo problema, il problema della fondazione di questo Stato, che vuol dire il problema della giustificazione, il problema della richiesta di obbedienza per questo Stato. E anche qui, semplificando, le vie possibili erano due. Una era la fondazione dal basso, e c'era stata una richiesta precisa, io non parlo di cose astratte, cioè la richiesta delle assemblee costituenti. Come voi sapete, questa richiesta si realizza soprattutto man mano che si ha l'unificazione rispetto al sud. Uno dei problemi che ha dovuto gestire Cavour è il problema del rapporto con la spedizione dei Mille, nel momento in cui collega il problema della fondazione del nuovo Stato all'assemblea costituente. L'altra via era quella della fondazione dall'alto, cioè la conquista regia. Qual è la soluzione prescelta? Come al solito potremmo dire la soluzione mediana, oppure all'italiana la terza via. Noi, come noto, amiamo molto le terze vie. In realtà è solo una soluzione di compromesso. Soluzione di compromesso però che implica alcuni punti precisi, e cioè la fondazione via plebiscito. E allora qui c'è il richiamo a una dimensione dello Stato nell'età liberale e dello Stato liberale democratico che noi tendiamo a rimuovere, per dirla con Freud, ma che se per esempio leggessimo un pochettino in più Weber non rimuoveremmo, e cioè il peso del momento plebiscitario, il peso del momento della democrazia plebiscitaria, che poi è uno dei modi di coinvolgimento. Noi sappiamo che questi plebisciti sono stati in parte truccati e così via, ma noi sappiamo anche che quello Stato, il nostro Stato, non poteva fare a meno di una forma di legittimazione di quel tipo, solo che chiaramente appare come una formula di compromesso. Ecco perché dico che la cosa affascinante da studiare per quanto riguarda i movimenti liberal borghesi, il loro rapporto con lo Stato, è il tipo di compromessi che hanno realizzato, non il tipo di grandi progetti, perché è dei compromessi che noi capiamo con quale dimensioni effettive del potere avevano poi a che fare. Il secondo ordine di questioni, il primo è il problema della legittimazione, il secondo è il problema di come esercitare il potere in questo Stato. Ora qui noi abbiamo alcuni shock per la classe dirigente liberale, per la classe dirigente liberale moderata. La prima è la scoperta del ritardo della società, questo soprattutto per quanto riguarda il meridione. Guardate bene, io ho l'impressione che questo ritardo poi sia stato anche molto strumentalizzato, però sicuramente c'è un primo shock in questo senso. Un secondo shock, ed è l'idea della fragilità dello Stato, come dirà poi Sonnino, per l'ostilità dei rossi e dei neri. E cioè è Rossi. Oh, voglio dire, per questo mi affido alla loro fantasia per sapere chi sono. Guardate bene, la cosa grave nel nostro paese era che l'ostilità dei neri veniva da quel paese che aveva al suo interno la Santa Sede. Una delle tendenze della parte della storiografia, mi riferisco alla storiografia italiana, è quella di risolvere il problema del peso della Chiesa per quanto riguarda la vita individuale e collettiva in sede storica come in sede attuale, cioè diciamo eliminandola, rimuovendola. Con queste operazioni però, per esempio, non si capiscono, a mio avviso, alcuni motivi di intrinseca fragilità dello Stato liberale in Italia rispetto ad altri paesi. Per esempio, noi sappiamo che in Germania, anche lì c'è il problema di unificare una società divisa in più stati, noi sappiamo che anche lì c'è il problema di unificare una società divisa da vari punti di vista, però noi sappiamo che lì c'è una corona, a un certo punto, forte. Noi sappiamo che lì a un certo punto si crea, voglio dire, uno Stato forte. Adesso non voglio riproporre le tematiche sulla germanizzazione, però una cosa è sicura ed è che quel tipo di Stato non si riesce a realizzare in Italia per la presenza, voglio dire, della Chiesa a livello di Santa Sede. Guardate bene che non è solo il problema dell'ostilità, è il problema, e in fondo adesso voglio dire, sui nostri giornali Alberoni e gli altri sono soliti di chiamarceli queste cose, è il fatto che a livello di identificazione rispetto al potere, in Italia, insomma, dico, anche per tutta la vicenda secolare, ha sempre avuto più peso la Chiesa istituzione che non lo Stato istituzione. Non c'è bisogno che io richiami la vicenda ultima di Aldo Moro. Cioè, in fondo dico, se il Paese ha voluto trovare un momento di, diciamo, unità, allora poi dopo sanamente dividersi su queste cose, ha avuto bisogno di un pontefice che andasse a celebrare la messa. Non è stato sufficiente il messaggio del Presidente, al di là della persona che in quel momento ricopriva la carica. Cioè, queste sono dimensioni che possono sembrare stravaganti, però sono dimensioni importanti per capire il problema del funzionamento delle istituzioni nel nostro Paese. Quindi i movimenti liberal borghesi, i movimenti liberal moderati, cosa scoprono da noi? Scoprono che la società è arretrata e che lo Stato è fragile. Ed è in questo contesto che allora si trovano a dover fare la scelta, accentramento o decentramento, suffragio ristretto o suffragio allargato, monarchia costituzionale o monarchia parlamentare. E anche qui, secondo me, verrà trovata una soluzione di compromesso. È la soluzione che passa, per dirla con Yakin, che secondo me è uno dei più lucidi analisti delle vicende delle nostre istituzioni nei primi decenni dopo l'unità. Il primo passaggio è la dittatura dei savi. È una forma, se volete, sui generis di cesarismo. Gramsci ci ha insegnato che noi possiamo avere il cesarismo di una persona o il cesarismo di un partito. Qui è in sostanza il cesarismo di una oligarchia. Quindi una forma di dittatura, ma guardate bene, guardata anche qui nella sua accezione tecnica. Quindi non è che io in questa formula elegante voglia riproporre il solito discorso dell'autoritarismo. Quello che gestiscono, che gestisce la destra storica è uno stato forte, quindi anche uno stato con implicazioni autoritarie, ma quando parlo di dittatura non ne parlo in quel senso. Al tempo stesso è uno, voglio dire, prima fase di dittatura di fasi, dittatura dei savi, secondo elemento, tendenza ad una presenza capillare nella società. Di qui il secondo fenomeno caratteristico, che è quello della osmosi, prima ancora che fra politica e amministrazione, fra politici e amministratori. Cioè, la prima fase dello Stato unitario è una fase che si regge su questa osmosi, e questa osmosi è legata alla ristrettezza della classe dirigente, è legata agli equivoci in sé della separazione fra politica e amministrazione, ma è legato anche alla necessità di organizzare una presenza capillare di questa oligarchia al potere, di questa dittatura dei savi nel paese. Guardate bene, ho parlato di dittatura dei savi, ma è una dittatura che presenta queste caratteristiche. Non riesce a fare a meno del Parlamento. E perché non riesce a fare a meno del Parlamento? Perché ha il problema del rapporto con la corona. Noi oggi, nei confronti della corona italiana, cioè Riccardo Savoia, ci troviamo in questa singolare posizione. Abbiamo avuto tutta una lunghissima fase nella quale noi abbiamo rimosso completamente il problema del ruolo della corona nel funzionamento delle istituzioni e della vita del paese reale e legale del nostro paese. Adesso pian piano lo stiamo riscoprendo questo ruolo, per esempio lo stiamo riscoprendo per la politica estera. Noi sappiamo che, voglio dire, sia un bel dire, ma la politica estera del nostro paese, la scelta dell'alleanza con la Francia, la scelta per la triplice, le scelte che poi si collegheranno alla prima guerra mondiale, hanno visto una presenza spesso significativa della corona nel nostro caso. La nostra sfortuna rispetto alla Germania qual è stata? Che i nostri sovrani, per grazia di Dio o per sfortuna nostra, non si interessavano di amministrazione. Non venivano da una tradizione di monarchia amministrativa. Invece, cioè, voglio dire, avevano la tradizione era un'altra, il primato della politica estera. D'altra parte, pensate alla posizione del Piemonte prima dell'unità, al ruolo che per il Piemonte aveva la politica delle alleanze, dei giri di Walser e così via, allora potete capire il peso della tradizione in questo senso. Quindi, ripeto, la destra storica, la dittatura dei savi al potere, non riesce a fare a meno del Parlamento. Secondo, e non riesce a fare a meno perché ha il problema di condizionare la corona. Secondo aspetto. Non riesce però a realizzare una burocrazia capace di rendere efficiente questa dittatura. E qui perché? Perché in realtà ha una corona che è sì al vertice della burocrazia, ma che diversamente da quello che si era verificato nel caso tedesco, partire dal Settecento, e diversamente da quello che si era verificato nel caso francese, grazie a Napoleone, non era un vertice monocratico dello Stato impegnato in questo tipo di problemi. Guardate bene il problema della fedeltà, della responsiveness, potendo usare i termini inglesi, della burocrazia nei confronti della corona è importante anche per capire le vicende del nostro paese. però per quel tipo particolare di corona esistente nel nostro paese, la burocrazia non riesce a trovare una sua forma di consolidamento anche come potere, oltre che come apparato. Questi sono i punti. Noi, se la guardiamo a livello dei dibattiti che si sono svolti a proposito, noi possiamo dire che in questa prima fase si tenta di realizzare in Italia una forma di Stato etico. Non di Stato equico. Voglio dire, noi qui sappiamo che c'è tutta la teorizzazione di Hegel che in Italia arriva via Napoli. Però non è questo il punto. Il problema è un altro, è che quando noi parliamo per questi paesi di Stato etico, noi per esempio nel nostro caso intendiamo far riferimento a uno Stato con una forte vena pedagogica. Cioè, il problema è, la società italiana è in ritardo rispetto al liberalismo e rispetto alle istituzioni liberali, come fare per superare questo iatto? Cioè bisogna educare alla libertà. Ora non parlate bene che poi le forme possono essere tante, può essere la leva, può essere la scuola, voglio dire, può essere la libertà stessa. Però c'è questa fortissima vena pedagogica. E questo è molto importante, perché questo è il... E parlate bene che in questa vena pedagogica destra settentrionale e destra meridionale sono comunate. Questo era un carattere dell'oligarchia liberale della destra, già individuato molto acutamente da De Ruggero, ma che poi è andato perduto. Miglio sostiene a questo proposito che il problema vero è stato quello di un'impreparazione tecnica di queste classi dirigenti che ha impedito loro di gestire anche certe forme di decentramento burocratico, cioè lui pensava alle grandi ripartizioni regionali gestite da governatori, eccetera, come modo per organizzare la transizione fra preliberalismo e liberalismo, preunità e unità. Io ho l'impressione però che Miglio con questa considerazione scordi una cosa, che per questa dittatura dei sali rimane il problema della legittimazione, rimane il problema di giustificarsi, voglio dire, non solo come classe politica, ma come classe al potere in quel tipo di Stato. Quindi è una classe politica che non può fare a meno del sistema rappresentativo. Una delle tesi di Miglio è che non si è realizzato un vero decentramento burocratico perché si è portato troppo avanti il sistema rappresentativo. In realtà non potevano fare a meno del sistema rappresentativo. Non potevano farne a meno dal punto di vista ideologico, non potevano farne a meno dal punto di vista della corona. Il problema che si è aperto qual è stato? È stato che questa dittatura dei sali, questa oligarchia, a un certo punto vuol dire si è divisa, cioè sono prevalse una serie di divisioni regionali e locali, sono prevalse una serie di divisioni di interessi, sono prevalse divisioni legate ai rapporti con i vari gruppi delle classi dominanti dal punto di vista economico e sociale. Il problema del rapporto con l'aristocrazia, con quello che restava dell'aristocrazia terriera o addirittura dei grandi latifondisti. Il problema del rapporto con le nascenti forze della borghesia industriale. Il problema del rapporto con le forze della borghesia, del capitalismo finanziario, il problema del rapporto con le classi medie presenti e comunque in aumento nel meridione. In rapporto anche a questi legami, in rapporto a questi problemi, l'oligarchia si divide. Abbiamo la sinistra al potere, abbiamo il tentativo di far funzionare nuovamente la oligarchia al potere attraverso il trasformismo. Del trasformismo sono state date letture, secondo me, abbastanza moralistiche. Il problema è, a mio avviso, il problema del trasformismo è il problema di un tentativo dignitoso di far funzionare un sistema oligarchico allargandone la cooptazione. Non a caso, guardate bene, c'è il trasformismo, c'è l'allargamento del suffragio, vi sono, voglio dire, e in fondo, oggi i risultati della storiografia sono chiari, da questo punto di vista, stanno cambiando progressivamente alcuni rapporti economico-sociali, c'è il tentativo di adeguare la oligarchia alle nuove forze emergenti. Ma anche questo tentativo, voglio dire, non dà, secondo me, risultati, e allora noi abbiamo il secondo grande aspetto, o il secondo grande modello di Stato che si realizza da noi, ed è il tentativo di realizzare lo Stato di diritto via Crispi. Oggi finalmente la storiografia ha superato una serie di liquidazioni del crispismo nelle sue implicazioni politiche come nelle sue implicazioni economico-sociali, voglio dire una liquidazione in via di autoritarismo o in via di pura repressione, sono tutti aspetti presenti questi in Crispi, però io credo che Crispi vada visto come il tentativo di realizzare da noi uno Stato di diritto, uno Stato rappresentativo e burocratico di diritto. Oggi anche gli studiosi marxisti richiamano in Crispi queste dimensioni che sono molto importanti per capire questo tentativo. La presenza della vena giacobina in Crispi, la presenza della vena illuministica come fiducia, si dice, nelle buone leggi. Guardate bene, Crispi si collega da noi al periodo di forse del più grosso complesso di riforme delle istituzioni, il periodo, guardate bene, in cui queste riforme, caso quasi unico nella storia del nostro paese, vengono gestite in via parlamentare. Quindi sono tutti fatti che vanno richiamati, che poi ci sia il Crispi della repressione dei morti della Lumisana e dei fasci siciliani è altrettanto innegabile, che ci sia il Crispi delle avventure coloniali è innegabile, ma c'è anche questo Crispi che va richiamato. È il Crispi che, secondo me, che, visto il progressivo fallimento dello Stato etico, per così dire, nel nostro paese, tenta di realizzare lo Stato di diritto. Stato burocratico e rappresentativo di diritto. Noi sappiamo che a Crispi si deve la riforma dell'amministrazione comunale e provinciale con lo sviluppo dell'elettività dei sindaci. Però con lo sviluppo contemporaneamente dei controlli. Noi sappiamo che a Crispi si deve una delle pochissime leggi sulla presidenza del Consiglio dei Ministri e sul Consiglio dei Ministri, col potenziamento, cioè con la formalizzazione dei poteri, ma con l'aumento dei poteri del capo del governo e della corona, e così via. Noi sappiamo anche però come finisce questo tentativo. Ed è che questo, il tentativo di realizzare da noi lo Stato rappresentativo e burocratico di diritto, cioè imperniato sul primato delle buone leggi, imperniato sulla capacità dell'amministrazione di gestire imparzialmente i rapporti tra gli individui e gestire imparzialmente i conflitti, tutto questo finisce da noi in uno Stato degli apparati polizieschi. Cioè, Crispi realizza forse le più significative riforme istituzionali nella storia dello Stato liberale del nostro paese, ma Crispi è anche quello che accentua questa dimensione da Stato poliziesco. E, guardate bene, io non voglio qui illudermi e illudere voi che allora venga fuori il discorso, ecco, Stato di diritto, ennesima forma di Stato borghese autoritario. Però voglio dire, voglio richiamare il fatto che sicuramente vi erano anche delle potenzialità in questo senso, perché Crispi è quello che da noi porta più avanti la realizzazione dello Stato di diritto ed è quello che poi gli fa avere quel tipo di guardate bene, sono ormai alla fine, guardate bene che allora abbiamo una serie di dati significativi. Questo è il periodo in cui non a caso si sviluppa l'antiparlamentarismo, proprio per la convinzione che in fondo per questa via, attraverso o lo Stato del capo di governo forte o lo Stato della corona forte, si possono risolvere i problemi. Allora noi abbiamo il terzo tentativo caratteristico della storia dello Stato liberale nel nostro paese, che è il tentativo dello Stato amministrativo. È il tentativo del governo attraverso l'amministrazione, è il tentativo del rafforzamento dell'esecutivo, è il tentativo dell'età giudiziaria. Anche qui bisogna intendersi, perché questa locuzione Stato amministrativo, come la locuzione Stato di diritto, sono locuzioni estremamente generiche. Però credo che vada riconosciuto alcune cose. Guardate bene che anche questo è uno Stato amministrativo che non riesce a fare a meno del Parlamento. Anzi, Ragionieri ha messo in luce come in questo, nell'Stato di Tiani il Parlamento da noi acquisti, una sua, per usare un termine attuale, una sua progressiva centralità, perché è il luogo delle mediazioni. Il discorso dell'amministrazione, noi sappiamo che è il periodo in cui, voglio dire, si sviluppa quantitativamente l'amministrazione da noi, è il periodo in cui si realizzano gli apparati di nuovi interventi, l'amministrazione del lavoro, l'amministrazione della sicurezza sociale, lo sviluppo di certe forme, per esempio lo sviluppo dell'amministrazione delle ferrovie, tanto per non fare un caso, perché questo è il periodo della statizzazione. Però, guardate bene, quasi nessuno mette in luce, anche questa ritengo una delle mie lampadine, che questa amministrazione che si sviluppa è un'amministrazione che tenta sempre di più di coinvolgere al proprio interno le forze sociali. Per esempio, c'è tutta la mitologia sui prefetti giolittiani. Nessuno però mette mai in luce, a mio avviso nel modo dovuto, quello che invece all'epoca sapevano, ed è che il prefetto giolittiano si rafforza perché attorno ad esso si realizzano una serie di corpi consultivi con la, oggi come diremmo, con i rappresentanti delle varie categorie. È emblematico. Sì, sì, lo so, ma giustamente Nicola richiama le forze sociali. Voglio dire, ma e questo è un fatto importante, perché guardate bene che se pensiamo alla nuova, una delle nuove amministrazioni caratteristiche di Giolitti, quella del lavoro, questa si regge sul Consiglio Superiore del Lavoro, che ha una delle sue caratteristiche nella rappresentanza, voglio dire, delle forze implicate. Allora cosa viene fuori alla fine? Viene fuori che siamo in presenza, in realtà, di uno Stato amministrativo, uno Stato che gestisce sempre di più l'intervento, ma uno Stato che contratta anche sempre di più questo intervento. Cioè, col fatto però che a questo non segue la sanzione politica e parlamentare del riconoscimento delle nuove forze che viene fatto in via amministrativa. Cioè, con i sindacati Giolitti è disposto a trattare per le vertenze del lavoro, li convochi in prefettura. Voglio dire, con, per quanto riguarda i socialisti è disposto a trattare alla luce o sotto, diciamo, per quanto riguarda la realizzazione di una serie di riforme sociali, di sviluppo di legislazioni sociali, ma non è disposto a mettere in discussione, per esempio, il primato dell'esecutivo rispetto al Parlamento. E non è disposto a mettere in discussione il primato di un esecutivo in cui, come dice giustamente, e anche in questo punto, come in altri punti, molto lucidamente Carrozzi, in cui in realtà il governo rimane comunque espressione della stretta maggioranza. Cioè è un po' come oggi, no? Che si possono fare, per esempio, le leggi sull'occupazione giovanile con l'accordo di tutti, si possono fare una serie di altre leggi con accordi più ristretti, quando però si arriva al governo questo deve restare solamente in mano ai democristiani. Giolitti, nel suo piccolo o nel suo grande, applicava un meccanismo di questo tipo, e cioè aperture ai vari livelli, a livello di amministrazione, a livello di Parlamento, ma a livello di governo no. In sintesi, quindi, vengono fuori un po' questi punti, dovendo valutare il funzionamento dello Stato liberale da noi. La centralità di una oligarchia parlamentare. Centralità al tempo stesso di uno sviluppo degli apparati che però, diversamente da quello che si verifica in altri paesi, non riesce ad assumere un proprio ruolo di pungolo, di stimolo, se non di decisione centrale. In fondo, anche alla fine dell'età giolittiana, che pure per alcuni profili è veramente l'età d'oro del liberalismo e dello Stato liberale in Italia, rimane una profonda sensazione di fragilità. È la sensazione che Giolitti stesso aveva nel momento in cui, per esempio, voleva evitare al Paese lo shock dell'entrata in guerra per la convinzione che il Paese non fosse in grado di fronteggiare, voglio dire, un conflitto, uno shock, un impegno di quel tipo. Ma cosa voleva dire questo? Voleva dire che non esisteva, cioè che lo Stato liberale in Italia aveva fallito in una cosa. Aveva fallito, per così dire, nel tentativo di legittimarsi, adesso uso una terminologia giuridica ma penso che sia chiaro a tutti, di legittimarsi come Stato persona. Cioè, come complesso di apparati che gestivano il potere non era arrivato a legittimare. Ma emergeva anche un'altra cosa. Emergeva che quel richiamo che in fondo è legato a tante polemiche sul decentramento, sulla giustizia nell'amministrazione, eccetera, cioè l'esistenza di una società buona e giusta nel nostro paese, condizionata e distrutta da istituzioni cattive o sbagliate, voglio dire, anche, per usare i termini dei giuristi, anche il momento dello Stato comunità era in crisi. Perché cosa emergeva? Emergeva che in realtà questo Stato o comunità per alcuni profili non aveva modo di farsi valere più di tanto. Per altri profili era profondamente diviso, venato da contraddizioni e da divisioni. E per altri profili ancora era in grado comunque di condizionare lo Stato apparato. Quindi emergevano, io adesso magari alcune cose poi le dirò dopo, se del caso, nel corso del dibattito. Emergeva in fondo che le strade possibili a quel punto diventavano due. Uno era uno sviluppo di uno Stato o di una democrazia plebiscitaria che o nella lotta al nemico nazionale o nella lotta al nemico di classe consentisse di superare queste debolezze e queste contraddizioni strutturali dello Stato liberale in Italia. Oppure, voglio dire, l'altra via era quella di rimettere mano, per usare un'altra formula dei giuristi, allo Stato ordinamento. E cosa vuol dire questo? Rimettere mano ai problemi di una fondazione più contrastata, più partecipata da parte delle masse del potere e del suo esercizio, cioè mettere mano, fra l'altro, a una organizzazione del potere che superasse certe forme di separazione tipiche del potere e degli apparati burocratici nei confronti delle masse. E questo perché? Perché in realtà le tre strade percorse, Stato etico, Stato di diritto, Stato legale, Stato amministrativo, avevano alla fine esaurito tutte le potenzialità della ricerca, ripeto, di quel famoso juste milieu fra le due strade estreme. Le due strade estreme, appunto, ancora una volta, o del dispotismo o della democrazia. Credo anch'io. Rotto tutti i vetri. E poi sarà la scrive chi vuol parlare sulla relazione del professor Cortini. Frau Dr. Handel wollte schon. Ja? Aber. Verbunden hat, Posso subito aggiungere, questo si riferisce anche alla domanda che il professor Schiera ci ha fatto oggi. Vede, la situazione in Austria è ancora molto più complicata, quella tedesca è già abbastanza complicata, quella austriaca è ancora più complicata perché dobbiamo partire da un momento della paura, dello scretolamento di uno Stato già esistente. In Germania c'è uno Stato che si forma, che viene fatto da Bismarck con le guerre, eccetera. In Austria nel 48 c'è uno Stato già esistente che pare che cada in pezzi. Allora la situazione è, la prima soluzione è il centralismo, con l'aiuto dei anche del liberalismo, centralismo fatto dallo Stato, dalle forze conservatrici, però anche con l'aiuto delle forze sociali del liberalismo, cioè nel neoassolutismo. E lì viene poi quello che ha detto la dottoressa Heindl, che si prende questa idea dei circoli che aveva già elaborato la Costituente di Krenzinger, per alleggerire il peso dei historischen Länder, cioè per sciogliere un po' questi historischen Länder, per alleggerire le forze, come si diceva allora sempre, le forze centrifugali. C'è sempre il problema delle forze centrifugali. Dopo, quando questo tentativo fallisce, il neoassolutismo, che contro il neoassolutismo c'è una doppia opposizione, una opposizione da destra e una da sinistra. C'è l'opposizione del federalismo aristocratico, tradizionale, conservatore, dell'aristocrazia, che si rivolge contro questo centralismo burocratico del neoassolutismo di base, eccetera, e c'è l'opposizione del liberalismo contro il concordato, eccetera. Tutti e due sono contrari. Quale piace di più a Francesco Giuseppe? Naturalmente quello conservatore. E lui un momento crede che dando più poteri, che si possa arrivare a un certo costituzionalismo, dando più poteri alle forze tradizionaliste, aristocratiche, eccetera. E questo è in ottobre diplom e quel periodo. Poi si vede che anche questo non funziona, allora torna dall'altra parte di nuovo, piuttosto tedesco centralista. Il liberalismo tedesco era quasi inevitabilmente legato alla tradizione centralista, per ragioni sociali, per ragioni di tradizione, eccetera. Francesco Giuseppe, per quanto capiva questi problemi, perché era un uomo che si interessava anzitutto della caccia e dell'amministrazione, ma sa, della piccola amministrazione, di stare al tavolino, eccetera, e si ha spesso l'impressione che lui perdeva completamente di vista i problemi grandi e che nella politica interna faceva quello che l'ultimo consigliere lui aveva consigliato. Cambia continuamente, aveva una mano terribilmente infelice nel corso della politica interna, poi era impazientissimo, se uno non riusciva subito lo lasciava cadere, eccetera. Allora Francesco Giuseppe, è un problema se lui ha veramente capito tutta questa problematica. Poi dopo il 66 è pieno di pessimismo, dice in fondo noi siamo condannati a morire, l'unica cosa che possiamo fare è di morire in bellezza e con onore. In ogni crisi ritorna quest'idea, l'unica cosa è combattere con onore. E lui vedeva i problemi solo da quel punto di vista strettamente di onore militare, di onore della dinastia. Io dubito che Francesco Giuseppe abbia visto queste cose, ma c'è il tentativo naturalmente di superare le difficoltà attraverso una volta una soluzione un po' più centralista, una volta un po' più federalista, e sempre l'idea anche che bisogna non dar troppo spago alle forze centrifughe, e questo il problema si pone in tutt'altra maniera. Ma il liberalismo tedesco burocratico, anche per la sua tradizione e carica giuseppina o frat liberalismo e burocratico, è portato verso più tosto verso il centralismo, mentre c'è un liberalismo di sinistra dove ci sono anche certe tendenze federaliste, quello che il professor Quassini ci ha spiegato oggi così interessantemente con Riccabona e il Salvotti, avviene anche sulla linea dei liberali tedeschi, tra la maggioranza che logicamente centralista, anche per mantenere il Besitzstand, e voi avete sentito che questa parola sulla quale ho tanto insistito ieri, oggi è tornata nella relazione del professor Rau, un altro piccolo gruppo qui, Fischhoff e Johannes Pomusberger, crede che il problema delle nazionalità possa essere risolto col federalismo. Ma è vero lo stesso che ha dimostrato oggi il professor Cortini, per tutta l'Austria, dopo il, si può dire, specialmente dopo il 90, quello che domina tutto, fino alle questioni chiericali, fino alle questioni di non c'è la nomina di un vescovo e non c'è la nomina di un capostazione nelle ferrovie statali, non c'è la nomina di un bidello di una scuola elementare che non sia un problema di prestigio nazionale, dove non entri i cari amici, il caro amico belga annuisce con la testa perché lui conosce la situazione dolorosa anche nel suo paese, questo problema. E questo è assolutamente, domina tutto, il problema nazionale anche avvelena tutto, avvelena anche i problemi liberalismo, socialismo, eccetera. Come ho citato ieri Victor Adler, il fuoco ha preso anche la nostra casa. Ho risposto con questo alla sua domanda. Così. Io sono grato per questa domanda. domanda e anche io mi approfitto per brevità per non rispondere ma per fare qualche considerazione anche su quanto è stato proposto questa mattina dal professor Chiera e anche su qualche punto della relazione del professor Fili. Solo la seconda parte, quella riguardante proprio le istituzioni, perché la prima parte ha maggiore carattere teologico, però meriterebbe poterla vedere, leggere e qua e là, vabbè, qualche punto, ci presterebbe anche vero, a delle considerazioni. Ma Rufini non c'è, o c'è? È fuori. Restiamo a questa parte qui. Io penso, parto da questo principio, che gli orientamenti politici e anche i rapporti di classi e le grandi idee, vero, politiche, anche le grandi idee politiche, debbano essere riconosciute sulla base dei diritti e delle norme amministrative. Perché le leggi e le norme amministrative sono i fatti in cui si concretano in un determinato momento gli orientamenti politici e anche le scelte dei partiti. Ieri dicevo che la palla di piombo al piede dell'Austria è stata la Costituzione del 61, con gli ordinamenti annessi, sono gli ordinamenti elettorali invece. Sono chiamati così, e con gli statuti che abbiamo oggi, dei singoli gender e dei singoli regni. Lì viene impostato un problema giuridico costituzionale che si è trascinato fino ai nostri giorni, fino alla Costituente italiana, vero? E che ha trovato delle soluzioni profondamente diverse nel Reich tedesco, ovviamente per le diverse origini degli stati storici, nell'impero austriaco e poi però nel regno italiano e adesso anche nella Repubblica italiana. Ci sono due tesi, due posizioni, va bene, fondamentali, che sono queste. Sono i gender, le regioni, gli stati storici, che delegano al governo centrale determinati poteri e si riservano tutti gli altri provenienti proprio dalle autonomie storiche. Non sono ancora autonomie nazionali, sono autonomie storiche. Il Tirolo di lingua tedesca non ha nessuna contraddizione con gli Asburgo e con l'Austria e con l'impero, non ha contraddizioni di natura nazionale, ha una propria autonomia storica che vuole conservare. O viceversa, come è stata poi la soluzione nella nostra Costituzione italiana del 48, è lo Stato che, mantenendo la sovranità totale al centro, concede determinati poteri alle regioni, quindi Italia, nell'impero austriaco, ai leader. La soluzione del 61 in Austria, nella patente di febbraio del 1861, che si richiama poi però anche a quella d'ottobre, al diploma di ottobre del 60, serve questo indirizzo costituzionale. Allo Stato centrale vengono riservati determinate competenze e determinati poteri. Gli altri sono, dei lender. Questo per quanto riguarda, e questa è una divisione che io vorrei fosse tenuta ferma, l'autonomia legislativa. Il decentramento amministrativo è qualcosa di natura diversa, è qualcosa di profondamente diverso. Il decentramento amministrativo dalle autonomie legislative. Le autonomie legislative vengono evidentemente rivendicate dai lender dell'impero asburgico fino al punto di porsi in aperto contatto Non dimentichiamoci che nel 1914 la Chiesa di Istro si riunisce per protestare contro la mobilitazione in massa che va davvero fino al 40° anno di età. Perché? Perché quella mobilitazione in massa fatta dal potere centrale lede determinate potestà che il Land Tirol aveva ereditato addirittura dal 1363. La stessa cosa era avvenuta nel 1816 quando era stato costituito il primo Reggimento Kaiserjäger, il primo reggimento dei Kaiserjäger. Spetta a noi, va bene, vero, la difesa del territorio. Va bene, e solo per concessione della Chiesa è stata consentita l'istituzione di questo primo reggimento dei Kaiserjäger, che era poi una milizia centrale dell'impero e non del Land Tirol. Questo per quanto riguarda le autonomie. Per quanto riguarda il decentramento, invece, non c'è nessun dubbio, almeno per quello che conosco io della storia austriaca, e domando scusa se sbaglio, che il decentramento era desiderato, io credo, contemporaneamente nel Land per un motivo di salvaguardia dell'amministrazione locale e desiderato contemporaneamente dal governo centrale per un altro motivo opposto, che era quello di poter avere un'amministrazione controllata e uniforme per tutto quanto il territorio. La questione dei crati, dei circoli, è stata quindi una questione che vuol dire scottante dal 1848 in poi, ed è arrivata fino all'epoca nostra, quando addirittura nel 1948 era stata proposta, invece che la suddivisione della regione in due province, Trento e Bolzano, la suddivisione sui detti bezirke dell'amministrazione austriaca. Ed erano le popolazioni estremamente gelose e contente di questo decentramento, che consentiva un'autonomia dei comuni, consentiva un'autonomia dei bezirke, con proprie potestà, però solo di natura amministrativa, non legislativa. Adesso vedo che è tornato il professor Lucidi, volevo dire qualche cosa a conclusione. Questa patente del 1861 è stata modificata sul piano della prassi per l'intervento del centralismo parlamentare, non centralismo amministrativo, ma è rimasto in vigore inalterata. E questo, secondo me, è quello che ho cercato di dire oggi, è stato il conflitto interno, quella quadratura del cerchio, su cui mi pare che Matteo Lucci però non sia molto d'accordo, perché diceva che in Inghilterra questo problema è stato risolto. Ma tu ammetti che c'è anche qui, naturalmente, quello che complica le cose terribilmente è che in questo problema potere centrale, autonomie locali, entra poi la questione nazionale. Ecco, e prima di dire, e poi io credo che non dovrò intervenire più, perché almeno che non ci siano altri, ci sarà pure qualcuno, volevo dire che avvenire questo. E questo problema è lo Stato che concede le potestà legislative e le materie in potestà delle singole regioni, o è le regioni che rinunciano a favore del potere centrale, vero, a determinate potestà e a determinate materie? È un problema che, mi dispiace se 100.000 giorni più vicino a noi, è un problema che si è presentato dopo il 1945 proprio per lo statuto regionale d'autonomia della regione Trentino attuale. Le due tesi sono state contrapposte. I progetti della Volkspartei incominciarono. Allo Stato italiano sono riservate queste competenze, una di quelle stesse che sono indicate qui, l'organizzazione nel settore militare, della finanza, eccetera, eccetera. Tutto il resto è competenza della regione. La soluzione che abbiamo dato in sede di costituente, quella che il costituzionalista Ambrosini ha chiamato con caratterizzando il nostro Stato, non è né uno Stato unitario oggi né uno Stato federale, è uno Stato regionale. Ha trovato, va bene, però questa soluzione dei poteri interni è stata quella, va bene. Lo Stato ha mantenuto la finezza dei propri, la finezza, va bene, dei propri poteri e ha delegato con legge costituzionale alle regioni, rispettivamente una volta da un'inglese, determinate, va bene, materie. Volevo equitare l'equazione che dovrei andare via. Era via, dicevo, io volevo dare tanto una piccola osservazione sulla parte storica, non sulla prima, che è stata per me un po' difficile a seguire perché sono un po' terra a terra. E... Allora, tu vuoi passare già alla discussione europea? No, non credo che prenderò poi in più la parola. Chi vuol parlare sulla... Bene, io posso fermarmi anche qui. No, perché voglio ancora domandare se qualcuno vuole intervenire su... vedi la professoressa Garbari. Io non vorrei rubare il tempo che è prezioso. E volevo, più che fare delle osservazioni, fare qualche brevissima integrazione subita stamattina per i limiti di tempo. Se le correnti liberali trentine, in mediazione tra movimento italiano e movimento tedesco, dobbiamo tenere presente anche quell'apporto ancorato al liberalismo, nel senso che il liberalismo democratico è per molti aspetti aperto anche a un socialismo umanitario, dovuto a una figura particolare di un trentino che però vive in Italia e Hegel, che è un discepolo di Ferri, della scuola del Ferri e della scuola del diritto appunto positivista. Mi pare interessante perché a parte uomo di mediazione di cultura europea, porta questi ideali nel Trentino e vive molto vicino agli studenti trentini, che poi è la classe dirigente, futura. Quelle idee porta di carattere appunto positivistico, di carattere democratico e anche un certo anticlericalismo, che poi saranno trasportate dagli studenti trentini a Graz, a Vienna, in Innsbruck e all'università. E qui, rifacendomi alla bellissima comunicazione del professor Fulen, vorrei ricordare una cosa. Lo stesso Stigler è in rapporto con quegli uomini che a loro volta erano in rapporto con la cultura bella, penso per esempio dei governati o penso agli artieri di sostegno. No? Tant'è vero che lo stesso Stigler tiene lezioni di sociologia criminale all'Università Libera di Bruxelles nel 7 e poi è stesso farà delle lezioni nel 9 al Cesare Altieri di Firenze. Per cui c'è anche questo tramite, va bene, che mi sembra piuttosto interessante. E che portò addirittura questo liberalismo democratico ad essere vicino allo stesso Cesare Battisti. Ecco, poi un altro aspetto volevo rilevare molto brevemente. Il liberalismo trentino non cade nel nazionalismo irredentista, aperto ai sentimenti nazionali, sì, ma non nazionalista. E questo è interessante se noi pensiamo, sempre in una prospettiva che non è limitata soltanto al Trentino, che la questione nazionalista viene incubata nel Trentino, in sostanza analogo, perché in realtà nell'estate del 10 si prepara l'associazione nazionalista con la presenza a Nago, nella villa appunto di casa Sigel e Pedrotti, Barista e Orsini erano tutti parentati, che arrivano a questa villa dove passavano gran parte dell'anno. E qui c'è la presenza per un mese di Corradini e Castellini, Castellini padre, Castellini figlio, e De Frenzi, che già si era occupato con le sue lettere d'albarda sul calcio giornale d'Italia, per cui se metti che qua incubata la questione nazionalista e coinvolge anche degli elementi trentini. Nel 10 era presente, c'è una testimonianza di cifre congiunte anche con Cesare Battisti. Cesare Battisti, Corradini, Castellini, Stigler insieme. E, tuttavia, i liberali trentini accedono al nazionalismo italiano soltanto perché nel resto di fronte all'opinione pubblica italiana, non di fronte al governo, la questione del trentino. Però immediatamente, di accorge che la parte riguardante l'irredentismo, la relazione svolta di fatto in relazione all'irredentismo. C'è una sua interpretazione dell'irredentismo, per fini che in realtà sono tutt'altro che democratici. E direi che immediatamente gli uomini gentili si adottano la posizione di nazionalisti nel momento in cui si accorgono non soltanto l'associazione guarda con simpatia invece a Germania e Austria, che è il grande nemico per gli irredentisti principi, ma soprattutto nel momento in cui ci si accorge chiaramente che l'associazione va marciando verso forme di clericalismo e forme di conservatorismo. La rottura di stile con l'associazione nazionalista nel dopo, che ha come causa occasionale l'antisemitismo dell'idea nazionale, in realtà è un momento chiarificatore e porta proprio i liberali trentini a staccarsi nella quasi totalità da quell'associazione nazionalista alla quale poi si era iscritti. Dico, una gran parte dei liberali trentini non furono nazionalisti, tutt'altro. In questo senso vorrei richiamare ancora Enrico Bona, quando nel 19 scriveva sulla inopportunità di una soluzione unitaria dei problemi riguardanti il Trentino Alto Adige e accetterà il fatto che si dovevano creare due province, ma non una provincia sola, in modo da concedere un'autonomia alla parte diversa della provincia, cioè un'autonomia Alto Adige, portandoci su una posizione che anche altri liberali condivideranno. Scrive delle cose interessantissime, quasi che con chi apprendono, non lo spendete creando una presenza forte d'Italia, lo difendete assecondando, cioè le richieste giuste dell'elemento etnico tedesco. Infatti che l'italianità della regione è meglio salvaguardata da un trentino compatto nella sua compagine nazionale, da un altro anche soddisfatto nei suoi interessi locali, piuttosto che da una amalgama di due corpi eterogenei che formerebbero al confine una zona passata. Ora mi pare che qui veramente di nazionalismo non si possa parlare in nessun modo. Terza osservazione, brevissima, proprio per parlare di questi rapporti del liberalismo trentino nel più vasto contesto italiano ed europeo. Il liberalismo accetta a un certo punto questo suo carattere anticlericale, che però non è un carattere di polemica contro la Chiesa, è soltanto rivolto a quella che è proprio la legislazione dello Stato. Però a un certo punto c'è un recupero di un filone che allontana il verso dell'attracco e nel rompino, l'apertura verso il modernismo. Nel 1906 Bolzino si è fatto come modernista. Ora, è un caso che si sia rivolto Bolzino o no? Ecco, è un problema che si è affrontato da parte della storiografia. Ecco, forse non è un caso. Noi pensiamo che gli ambienti più qualificati culturalmente di liberalismo trentino conosce il modernismo. E lo conosce che parla di Savona. Noi abbiamo la notizia da Comelli che fu condannata con sue due opere per il modernismo. Noi abbiamo qui il Fogazzaro, per esempio, che è vivissimo, la sua presenza è viva nel Trentino. Ma poi, sempre la famosa figlia di Nago, ospita persone come, per esempio, un Don Vito Fasciola. Sappiamo dei rapporti tra la famiglia Tigre Castellini con la coppia Picardini e dei rapporti con Giuseppe Zoppola, soprattutto la grande amicizia con Antonio Iacartieri, che per la commedia va tenuto a cresima e considerava la sua madre spirituale, che poi regolarmente erano nel Trentino. Non solo, lo stesso Giovanni Pedrotti in una lettera del 2011 parla di una possibilità di un accostamento dei liberali a certe correnti cattoliche di rinnovamento, riprendendo proprio la tradizione rosminiana, che di anziché fare futuro con i clericali nel condannare questa corrente, perché noi non la appoggiamo proprio nell'ammodernamento della società. Per cui mi pare che questo aggancio fra queste correnti europee di carattere, va bene, il modernista e questa concezione del modernismo come ammodernamento della società civile da parte dei liberali trentini non siano da sottovalutare, proprio da questo quadro dell'ampiezza dei interessi dei liberali di questa provincia. Volevo dire che questa preoccupazione perché si andasse qui, ed è una materia che scorta, ma io ne parlo. La preoccupazione che si andasse al di là di quelli che sono i confini nazionali e risorgimentali era stata del resto rappresentata da un grosso, oltre che dal Bissolati, da un grosso esponente del liberalismo trentino. Parlo del deputato alla Dieta di Innsbruck, l'Antonio Stefanelli, il quale alla fine nel settembre del 18 ha fatto quell'articolo esplosivo che poi è stato ripreso vivacemente condannato dal Tolomeo. Ma, perché finisco, era la stessa preoccupazione con i sorrutini del Giolitti, il quale Giolitti, per venire poi a quel punto che mi permetterò di sottolineare, il quale Giolitti nelle conversazioni con Olindo Maragogli è uscito con una frase che per me caratterizza il liberalismo italiano, il vero liberalismo, che era lontano dal nazionalismo. Questa frase che per me è estremamente rilevante. Io sono contrario alla guerra, non per la debolezza, la fragilità dello Stato, per tanti altri motivi, ma diceva anche perché dopo aver tanto sofferto per i redentismi nostri in casa altrui, non credo che dovremmo soffrire ancora per i redentismi altrui in casa nostra. Questo era il pensiero di Giunti. Grazie per questa integrazione. Con questo abbiamo chiuso, credo che non c'è nessuno più che vuole parlare sulla relazione. Sì, c'è il dottor Koppler. Credo il professor Coppola ha detto che lui è un po' scettico per questa cosa di Molvino, dice che questo forse non era una vera collaborazione, ma io credo che questo ci porterebbe a un tema molto vasto che forse si potrà in un'altra occasione. Sì, appunto, che porta poi, che poi di un altro convegno di competenza di Monsignore Roggia e del suo istituto di studi religiosi. Ma jetzt sind wir also zur relazione del professor Ruffilli gekommen. Siamo già arrivati con l'osservazione di Cortini alla relazione di Ruffilli. Chi vuole intervenire alla relazione Ruffilli? Io vorrei intervenire, se devo scappare via. Allora prima Matteucci e poi passeremo a Andrea, per chi altro ha detto? Lì, ich glaube, es ist unmöglich, es ist der gute, ist er wieder hingegangen, der Ulrich. Ah sì, sarebbe necessario di riassumare prima, no? No, non facciamo in tempo. Dunque, se io dovessi rispondere ai molti fatti personali, io dovrei parlare per circa un'ora o due ore, ma la vostra fortuna consiste nel fatto che io non ricordo mai quanto ho scritto, e mi sembra di aver detto delle cose così intelligenti riferite da Ruffilli. Passando dalle facette alle cose serie, Ruffilli afferma che noi siamo in una fase di transizione, la liberal democrazia è una fase transitoria, sono bellissime espressioni, io chiedo verso dove e mi domando se verso quella società organizzata fra il convento e la caserma che si prospetta un economista marxista inglese, di cui in questo momento ignoro. Quindi io ritengo con il suo austriaco che il liberalismo è ancora attuale per la gestione delle città industriali avanzate. Fatto qui siamo in un convegno di carattere storico, però il mio intervento strettamente storiografico, e vi devo dare l'ottica del mio intervento, altrimenti non riuscirete a comprenderlo, è sulla storia del pensiero liberale e non sulla storia dell'Italia Unita, sul pensiero liberale. Per vedere quella che per me è la sua debolezza strutturale, che consiste nelle due anime del pensiero liberale, e vedere i motivi profondi di queste due anime, e alla fine rapidamente chiudere qual è l'anima ancora viva e qual è l'anima morta. Ruffilli, nel nucleo più storico del suo intervento, ci ha detto che noi siamo passati attraverso tre fasi. Lo Stato etico o lo Stato pedagogico impersonato dalla destra. Siamo passati poi con Crispi allo Stato di diritto, con forme autoritarie sì, ma di modernizzazione, di razionalizzazione, e infine con Giolitti allo Stato amministrativo. Ora, dal punto di vista del pensiero politico, questo è assolutamente sbagliato per due motivi. Primo, perché nel pensiero politico questi tre stati si vengono presentati contemporaneamente. Non sono, si dà di questo fenomeno, non una lettura diacronica, ma sincronica. Ritengo per sincronico che si verificano puntualmente negli anni 60. Questa lettura del liberalismo esalta e valuta o critica, non ho ancora capito se sia un'esaltazione o una critica, soltanto un'anima del liberalismo e mi lascia fuori l'altra anima del liberalismo italiano. Per semplificare, dovrò personalizzare le due anime nella figura, da un lato, di Minghetti, di Marco Minghetti, e dall'altra parte nelle due figure, o nella sola figura di Spaventa, o dei due fratelli Spaventa, Bertrando e Silvio. Se noi facciamo una lettura attenta delle loro due opere principali, quella, per esempio, prendiamo La giustizia amministrativa di Spaventa, che è una raccolta di saggi, o prendiamo di Minghetti L'aderenza dei partiti nella giustizia e nella pubblica amministrazione, che è opera che ha diverse edizioni, e nelle diverse edizioni vi sono anche diverse prefazioni, se noi ricostruiamo e ne facciamo una lettura, diciamo situata nel tempo, storicizzando ogni articolo, storicizzando ogni prefazione, ci accorgeremo che è un grande dialogo a distanza tra il nord e il sud di questi due autorevoli rappresentanti del pensiero liberale, i quali su certi punti non si intendono. Non mi interessa chi ha vinto o perché ha vinto, se aveva ragione di vincere. Ha vinto certamente la linea Spaventa, l'anima Spaventa. E mi è concesso una battuta tanto per distrarre l'attenzione, può darsi che Minghetti abbia perso unicamente perché, come diceva il grande conte, il conte di Cavour, Minghetti non aveva coglioni. Ma ad ogni modo sono due anime diverse. Perché sono due anime diverse? Scusate, l'ha detto Cavour. Se noi prendiamo hat keinen Mut gehabt. Das wenn ist mit prendiamo dem Term italienischen Ausdruck verwendet worden. Uomini come Minghetti li sentiamo strettamente affini a Cavour, a Pasolini. È un ghetto che proviene dall'agricoltura, che ha modernizzato l'agricoltura, che ha pensato prima dell'unificazione, di provincializzazione, una modernizzazione dell'agricoltura. Minghetti è stato autorevole rappresentante nel fondare istituzioni per il rinnovamento dell'agricoltura in Emilia. È un ceto legato ai problemi concreti. È un ceto che si muove però in un tessuto sociale di un'agricoltura in pieno sviluppo, ma di un'agricoltura, diciamo, industrializzata, eccetera, eccetera. Se prendiamo invece Spaventa lo troviamo molto più vicino e molto più congeniale a degli uomini come De Santis, come De Meis, che erano solo e soltanto degli intellettuali e quindi senza quel senso robusto delle cose concrete, senza quel senso robusto dell'amministrazione, e ogni grande classe politica viene proprio dalla amministrazione, come la grande classe politica inglese. Sono due ceti. Come veniva dalla galera? Chi? No, Cavour, Pasolini, Minghetti venivano. Cavour, mentre la classe dirigente liberale del Sud, De Santis, De Meis e Spaventa, venivano o dalla galera o dall'esilio, ma erano tutti degli intellettuali. Tant'è vero che De Meis ha insegnato a Bologna. Non fatemi perdere, perché sono rappresentanti di due culture diverse. Nei fratelli Spaventa, oltre i teorici dello Stato di diritto tedeschi, è presente, imponente e ingombrante sempre lo Hegel. Se andiamo a sfogliare i libri di Minghetti, oltre ai teorici dello Stato di diritto, non troviamo certamente Spaventa, ma troviamo piuttosto i grandi economisti inglesi, troviamo piuttosto Tocqueville e troviamo, cosa rarissima per un pensatore dell'Ottocento, troviamo anche il Federalist o i Federalist Papers. Sono due culture diverse che hanno un incontro, uno scontro. Perché esistono queste due culture diverse? A mio avviso corrispondono, queste due culture sono diverse nella misura in cui vi sono due Italie. Qui forse farò arrabbiare gli storici, ma io credo che questa struttura dualistica dell'Italia, del sistema politico italiano, non è un fatto recente, quello che ha riscontrato Croce quando parlava l'Italia divisa in due, cioè divisa durante la guerra, ma risale addirittura nel Medioevo, nelle due grandi esperienze di gestione del potere, l'esperienza comunale che è proprio del Settentrione e in fondo una delle prime forme dello Stato moderno l'abbiamo proprio con Federico II nell'Italia meridionale. Per cui noi vediamo, procedo molto rapidamente perché non voglio togliere spazio ad altri interventi, il punto in cui si scontrano in questi due libri che vi ho citato, dalla lontana si rispondono in continuazione il nostro Minghetti e il vostro Spaventa, dico vostro alludendo a te, è il punto del rapporto fra Stato e società civile. Perché? Perché in Spaventa, per dirlo con una formula che io tolgo, purtroppo non ho le mie schede, ma per toglierlo da un passo del testo di Spaventa, lo Stato è la verità della società civile. E quindi nello Spaventa abbiamo... Abbiamo contemporaneamente lo Stato etico, lo Stato diritto, lo Stato anche amministrativo, perché la questione delle ferrovie, il primo a trattarlo è stato Spaventa, con Minghetti che era molto timido e molto perplesso, ma abbiamo detto che Spaventa non aveva certe cose. E invece nella sua risposta Minghetti non è anche, come viene sottolineato oggi dalla Lettori, il teorico del decentramento attraverso il consorzio delle province, ma dove insiste maggiormente sui consorzi, i quali consorzi non è altro che il nome italiano di quelle che Alexis de Tocqueville chiamava le associazioni. Perché? Perché veramente, vivendo nel tessuto economico-sociale dell'Italia del Nord, aveva la sensazione, la realtà di questi consorzi che lui stesso aveva promossi, i quali contribuivano. Quindi niente intervento amministrativo dello Stato, quindi scetticismo verso la gestione delle ferrovie, quindi giudizi positivi verso forme di socialismo, ma che fossero un socialismo che si organizzasse dal basso e non fosse invece realizzato dall'alto, penso alle assicurazioni, malattie, eccetera, eccetera, attraverso le strutture dello Stato assoluto, delle strutture dello Stato amministrativo. Storicamente ha vinto certamente non la linea Minghetti, ma ha vinto la linea Spaventa. Ma il liberalismo oggi, diciamo, dopo, a quale dei due liberalismi si è rialzato? Emblematicamente fatto tre nomi, se c'è il teorico liberale riconosciuto da Benedetto Croce, ma se c'è uno che ha abolito il concetto di stato etico, di stato pedagogico, è proprio Benedetto Croce. Un altro grosso pensatore è Einaudi. Einaudi è ancora noto per il famoso e autorevole articolo Via il prefetto. C'è Gobetti, ma Gobetti in fondo esaltava contro Giolitti, è stato il vero grande avversario di Giolitti, non Salvemini, è stato un liberalismo che si costruisse direttamente dal basso. Il liberalismo autentico, che non ha vinto, aveva in fondo questa anima antistatalistica. E al liberalismo, quello che è arrivato allo stato amministrativo, sarà stato un liberalismo di un certo ceto che si credeva, si qualificava liberale, ma la spinta della presenza massiccia, e dell'ancora più presenza massiccia dello stato burocratico nella società, non è venuto poi a un certo momento dal liberalismo, è venuto da un modo distorto con cui certi liberali hanno risolto i problemi socialisti, i problemi che ponevano le masse, i problemi che ponevano i socialisti, e che era congeniale. Per cui lo Stato, questo Stato burocratico, che è il grande tema contro cui combatte Ruffilli, non è una creazione liberale, e oggi lo Stato burocratico che continua, che è sempre più presente capillarmente nella società, è uno Stato ormai che è gestito d'accordo dai cattolici e dai socialisti. Io ho chiuso e credo di essere stato nei limiti di tempo. Posso intervenire, prima di ha detto la parola di Passerin, con una frase soltanto. Quando lei ha detto che il liberalismo è una fase di transizione fra monarchia e democrazia, mi pare che l'abbia detto, vorrei soltanto far osservare che ogni fase storica è una fase di transizione, ogni fenomeno è un fenomeno di transizione, ogni persona è una persona storica fra due tempi, perché il carattere della storia è la transizione. Scusi, è solo una osservazione piccola. Passerin, per favore. Passerin. Purtroppo non c'era quando ho parlato del lavoro e anche di transizione. Per quanto esattamente trovate così d'accordo nel vedere, io ho detto che in Cavour c'erano, cioè il liberalismo in Cavour era molto composto, ecco, come si direbbe gli intimi, no? Cioè, quando si studiano gli stili dei capitelli greci, erano stili composti perché c'era questo elemento monarchico, la tradizione monarchica, e proprio quasi c'era coincidenza per tenere parole, perché ha giocato su questa tradizione monarchica, doveva giocare come liberale, perché se no non sarebbe riuscito, non sarebbe riuscito a tenere insieme quell'edificio così fragile che si stava costruendo. E quindi questo è già stato, e poi tutti gli altri elementi, insomma, l'elemento, io dicevo, c'era l'elemento liberale nazionale, però anche lì preso con un estremo senso del limite, sempre preso con un senso del limite in principio monarchico. E quindi è sempre un liberalismo fatto di, si direbbe, avrebbero detto di fare, per l'espressione inglese, checks and balances, no? Pesi e contrapesi. E questo non vuol dire che questo liberalismo fosse, diciamo, più condannabile perché era composito. Direi che era un liberalismo estremamente adattabile, adattato, piegato a una situazione di difficoltà, a un insieme di difficoltà spaventose, da cui non si capisce come sia uscito lo Stato nazionale italiano. Il quale Stato nazionale italiano sarà stato sottoposto a una dittatura del Parlamento. Cordiglia ha sottolineato, forse anche con un'accentuazione un po' troppo negativa per mio gusto, perché era una dittatura che poco fa, che l'anno con lui definivo drammatica, cioè in questo Parlamento si sono combattute delle battaglie in cui le persone morivano letteralmente, perché Salini è quasi imbattito a Napoli in mezzo alle difficoltà del sud, ma Cavour è quasi imbattito di fronte a delle resistenze di una sinistra che era in quel momento schizofrenica, perché tutti i maggiori amici, almeno alcuni dei maggiori amici di Garibaldi, hanno poi ammesso che era una vera disgrazia per la situazione di quel momento di non avere un vero capo politico, ma di avere soltanto una specie di eroe carismatico, come ricordato molto bene più volte quel termine, al quale si ricorreva come un po' i superstiziosi ricorrono a un santo per chiedere la grazia, e in questo caso la grazia non è venuta, c'è venuta Spromonte, poi c'è venuta Mentana, e forse non poteva venire anche quello, poteva venire come si dice un'altra parte. Fortunatamente l'apparato burocratico, lo stato burocratico che Nicola Matucci voleva esercitare era già nato e male in Piemonte e in una fase così preliberale o non so come chiamarla, una fase grigia di Carlo Albertini, che avrà dei meriti illustrati da alcuni studiosi o studiose come la Petrarchi, che fa i tirambi istruita fino innanzi dal mito, insomma, ma non è che sia tutto da buttare lì, ma certamente era una struttura regionale inadeguata, incapace, e c'è delle bellissime pagine perché Croce non ha soltanto criticato lo tappeto di Spaventa, ha anche pubblicato una serie di bellissimi documenti per capire Spaventa, sì, quello che ha avuto più importanza lì. E fra l'altro si vede che Silvio ha avuto il coraggio non solo di distruggere la Camorra a Napoli, perché non è poco, perché sarebbe come se distruggere la Napoli, perché è più robusta la materia. Insomma, mettiamo anche in luce i meriti di questo disgraziato. E dopo ha avuto il coraggio di affrontare la burocrazia di potere, che era grande, la burocrazia spaventosa, anche così Neromind, di Strecce, così scusa di tutti, e ci sono delle stupende. Quindi vincere quel passato, direi che l'Italia per vincere lo neonato Stato italiano, questo Stato, vincere questo passato è stato un po' colossale e drammatico, tragico, che non storico non può guardare, io forse lo storico pure dedicato alla mia relazione un po' così passionale, con le attività, ma è un tema drammatico, insomma, è quello che poi, per quanto riguarda tutto il resto dello schema che si è messo in atto, che parlo di un schema molto brillante, molto che suscita delle reazioni molto positive, che poi abbia vinto la linea Spaventa, che è l'altro molto problema dell'enorme squilibrio fra le due Italie, giustamente ricordato adesso da Matteucci, sia una cosa da ricordare, forse tu ci sei un po' scivolato sotto la vista, che cosa dire, d'accordo, però il problema, quello che mi è piaciuto molto come insegnante, è il problema soprattutto di Roma, di vincere questa resistenza di Roma, di questo antistato, si potrebbe anche chiamare, ma tu non hai dato la parola, era l'antistato, qualcuno ha detto, tra l'altro Cesare Calderoli, di forze antisistema, non so, qualche storico abbastanza bravo, tra i storici più recenti, e vincere queste forze antisistema, avrai scritto una famosa tedesca, ma ha avuto delle forze antistato, così spaventose da vincere. Questo è una cosa da mettere anche all'attivo proprio del liberalismo italiano. Non direi tanto del pensiero quanto dell'azione liberale. E questo io credo che tu non la ragione non avesse altro compito che di mettere in lato in vista i punti negativi, circolo deputato elettore, vero, questo rapporto generale, poi insoddisfatto stesso che non si fosse potuto fare, come in Germania, una sorta di federalismo, faceva sì che poi c'era la vendetta degli interessi locali che riapparivano, riaffioravano nel Parlamento. Però questo Parlamento, come ha detto un democratico, quindi un testimone proprio durante il periodo della destra, è stato quello che ha avuto insieme questi stati. Perché dopo tutto c'era la stessa distanza tra diverse regioni italiane, lo chiamo subnazionalità, di quelle che c'è oggi per diverse regioni europee. Io voglio dire, arrivare a questo paradosso e dire che lo Stato italiano era altrettanto plurinazionale, sotto un certo aspetto, anche se non c'erano profonde diversità etniche, ma c'erano delle diversità di costume, e così profonde che l'impero asburgico era molto più, quasi più unitario. Però la lingua comune, questa era una cosa che gli austriaci invidiavano agli italiani. Anche se voi dite che non erano la lingua comune, le famose lingue tagliate, eccetera. Ci sono delle statistiche che ancora adesso il 40% degli italiani non si capiscono proprio, il 70%. Sì, lo so. Un articolo l'ho mandato allo storico Rosselli, Giorgio Rosselli. Sì. E allora io credo che in Sicilia facessero i garibaldini del nord, tentassero parecchio a partire. Benché c'è una lingua comune, che era pure una lingua comune, c'è un letteraria, ma anche però si parlava anche che la lingua che parlava, c'è un brano che ti potrei citare, anche appunto di un memoriale del Möhring, dove dice: non dopo il 66 non disprezzate troppo la debolezza dell'Italia, perché un paese di non so 30 milioni o quanti, sì, 21. Cosa? 61. Nel, dopo il 66 dice questo, perché 22 milioni, dopo, 22 e mezzo. No. Ad ogni cosa? Diciamo di più di 20 milioni, dove la stessa lingua che parlano gli ufficiali, che dice il parroco dal pulpito, che insegna il maestro delle scuole. Per comandare degli analfabeti, c'è un articolo di Villari formidabile che dice una spiegazione della battaglia di Vista. Io dico, la quale fu combattuta fra genovesi e veneziani. Questo è vero, però per gli austriaci questo sembrava una grande forza. Lo di una lingua comune. Era una diversità tra un calabrese e un milanese, ma che dopo due o tre giorni riescono a capirsi, mentre fra un italiano e un tedesco o un magiaro le difficoltà sono slavo grosse. Sì, sì, sì. Penso valutate di sì, però c'era sempre una lingua comune, dei programmi, eccetera, che si potevano leggere. C'è invece 50 anni, c'è uno studio del Mauro. Sì. Del Mauro, 20 minuti, del 61, quelli che capivano la lingua italiana, erano tutti poi una lingua letteraria, cioè un po' come l'ebraico attuale, invece. Ah, benissimo. No, i maestri italiani in inglese parlano si praticavano in dialetto. È tutto relativo. Per gli austriaci questo sembrava una forza di unità invidiabile, nonostante tutte le difficoltà che si sono dimostrate anche a Custoza e a Lisa. Io dico soltanto questo, scusate. No, ma scusami, era solo per dire io, quando McSmith, non so, si diverte a dire, ma allora vi rendete conto che a Solferino e a cosa c'erano più italiani dalla parte austriaca che combattevano dalla parte austriaca che dalla parte italiana? Questo è una vergogna, no? No, ma lista sì, lista sì, ma per, come internazionalista, ecco, è la tragedia dell'idea nazionale, del corpo dell'idea nazionale, sì, questo, è stata una disgrazia spaventosa, sì. Dover che l'idea nazionale, anche lo dico a contro Cavura, che si è dovuto venire a dare guerra nazionale, guerra nazionale è stata una guerra, una disgrazia spaventosa, diciamo in questo senso. Non continuiamo a lodare le guerre nazionali, posso? Sì, ci sono altri? No, può rispondere. po' l'ordine delle cose dette, ma non mi adesso la possibilità. Sì, perché dobbiamo chiudere fra poco. Tranquillo. Io ammetto anche che il lì possa avere fatto la sensazione di chiamarla così. Credo però che il consiglio veramente con me che quello non era l'unico motivo per il quale Giolitti aveva paura dell'ingresso nell'Italia della Grande Guerra. Giolitti, tra l'altro, era uno dei pochissimi che sapeva che sarebbe stata una guerra lunga. E quando avrebbe costato, sapeva che avrebbe portato i rivolgimenti anche sociali. L'ha detto con molta presenza. Non è cosa che Giolitti sapeva, quindi sapeva. Io ribadisco il punto che secondo me è la riprova dell'estrema lucidità e lungimiranza di quest'uomo aver capito queste difficoltà, soprattutto quello che stava dietro, che dopo 50 anni lo Stato d'Italia c'era, funzionava anche grazie a Giolitti stesso, però era delle regole. Cioè è chiaro che magari, che so, il vero austriaco, guardandolo dal suo punto di vista, lo poteva sentire più forte, non militarmente ma più compatto, però Giolitti dall'interno sapeva che era un proprio carne, ecco. E voglio dire che io ho sempre visto in questo atteggiamento di Giolitti la riprova di una straordinaria felicità dell'uomo, di un riposto della cioè perché non la capisce neanche quell'ala della borghesia che muove la guerra per consolidarsi. Giolitti sa che questo non è possibile. Voglio dire, Giolitti non poteva sapere cosa sarebbe successo dopo, però voglio dire, ha questo giudizio. I più lucidi, in fondo, tra gli esponenti della classe e delle classi dirigenti europee, nel 1914, sanno che nel momento in cui entrano in guerra, come dicevano loro, si spengono delle luci, cioè si spegne un mondo. Francesco Ferdinando, questa era una delle cose di Francesco Ferdinando, era contrario alla guerra, perché diceva, noi ci buttiamo giù dai troni uno all'altro. Quindi voglio dire, e Giolitti questo lo sapeva. Mi piace che non ci sia Matteucci, ma tanto posso dirlo perché sono cose che l'ho già detto come lui mi aveva già detto queste cose, una specie di piccola sceneggiata che non facciamo con la nostra benefici, diciamo. Il punto è questo, io credo, quando io usavo quelle formule, stato etico, stato di diritto e stato amministrativo, intendevo usare delle formule non per riferirmi, non per riprendere diciamo elaborazioni tecniche nell'uno e nell'altro senso, ma per sottolineare delle dimensioni che sono, è vero, sempre compresenti nello Stato liberale italiano come negli altri Stati liberali, perché io rimango convinto che gli Stati liberali, gli Stati che si legano in movimenti liberali, liberali nazionali, liberali moderati, liberali di sinistra o di destra, devono fare i conti con queste tre cose, che sono con la presenza della colonna, del passato, perché vuol dire per i movimenti, questi movimenti liberali, le rivoluzioni sono già state fatte, rimane l'ultima forse che è quella nazionale, ma dal punto di vista costituzionale si tratta di realizzare le conquiste della grande rivoluzione inglese e della grande rivoluzione francese. Ripeto, mentre istituzione monarchica è stato di diritto dove bisogna intenderci, perché vuol dire la presidente ce l'ha insegnato da noi già, da Ruggero nel 25, no? È chiaro che c'è una accezione tedesca del termine, c'è l'accezione francese e c'è l'accezione nazista. Il punto in comune qual è? Il problema c'è la centralità della legge, che è il che poi si collega al problema del Parlamento, che poi si collega a quello che ha detto stamattina il professor Rao. Rao, però secondo me non teneva conto, per esempio, di un filone anche a livello teorico, ma se ne costa. Quando si trova di fronte al problema, allora dove sta la sovranità? La risposta dov'è? Nella legge e nella Costituzione. Quindi né principe né poco. Che bello, cosa c'è? Cioè, vuol dire, questo è importante, adesso non lo so solamente, però dico, c'è il problema del ruolo che deve avere la legge nel funzionamento dello Stato. Forse c'è anche i francesi nazionali che fanno così, sovranità della ragione. La ragione, è la ragione. Quindi è la ragione che è poi la loa della ragione. Quindi l'opinione pubblica che cosa serve? Serve a far emergere alla fine la legge di il terzo elemento è il problema degli apparati, il problema della democrazia. È un dato che viene da lontano, ma è un dato secondo me che devono impiegare, oltre naturalmente in questo contesto con il discorso della materia. Quindi quando io dicevo individuavo queste tre fasi per l'Italia, individuavo tre modi con i quali questi elementi sono stati composti e sono modi tra loro diversi, perché si può dire quello che si vuole, fino a che il sistema politico, lo Stato, le istituzioni funzionano in un modo, dopo Cristi funzionano in un altro modo, dopo Soliti funzionano in un altro modo ancora. Io posso benissimo buttare a mare le tre opzioni, però io voglio dire, non siamo smentiti su queste tre cose, che nella prima fase si cerca di fondare lo Stato educando il Paese ad accettare quello Stato, perché voglio dire che è da questo punto di vista di Minghetti stavolta sono d'accordo, perché anche Minghetti vede nelle autonomie, sicuramente in questo un modo per educare dire, il popolo nel mezzo. C'è quella frase bellissima di Croce, che io immediatamente non ho rilevato, quello si dice, ma insomma dice che sono 50 anni che discutiamo di autonomia, di libertà, eccetera, una cosa sicura. Che se il paese queste cose le avesse volute, queste cose ci sarebbero state. Cioè, perché così partiva dall'idea che non c'è il migliore educazione alla libertà e al decentramento che la libertà e il decentramento stesso. Cioè, qui noi non possiamo ascoltare che già l'ultimissimo Cavour, quello sul quale ha richiamato l'attenzione anche il professor D'Andrè, come nella destra, vuol dire di fronte al problema delle regioni, giusto il problema dell'Italia, c'è il problema di educare il paese allo Stato nazionale, allo Stato federale, c'è questo problema del tipo. Ed è una dimensione innegabile. Cioè, con Cristi in fondo, su che cosa c'è? Sul fatto che ormai lo Stato minimo sia consolidato. E quindi c'è il paese, c'è il mondo, c'è il problema di come farlo funzionare. Ora, Crispi sapeva che erano stati fatti una serie di tentativi, c'era stata la dittatura di Savi, sapevate bene che Stefano Giacini queste cose le dice nel 1867. Poi le ribadisce nel 70, poi le ribadisce nell'80, quindi queste cose le sapeva. Sapeva che c'era stato il trasformismo e voglio dire, il suo tentativo, collegandosi a un filone particolare del movimento democratico e del movimento liberale, anche liberale, cioè era condizione dello spazio per le buone cose. Con Giolitti la musica cambia ancora, perché è inciso, nel sistemino indicato da Matteucci non si capisce la capacità che doveva mettere Giolitti. Perché anche qui, delle due l'una, avviciniamo Giolitti alla destra meridionale, oppure avviciniamo Giolitti a Minghetti, però bisogna intendersi, perché Giolitti è quello che espande l'intervento dello Stato, e quindi apparati in tutti, voglio dire, gli ambiti della vita sociale, in economia, per, voglio dire, la soluzione dei conflitti di lavoro, per la gestione delle funzioni tradizionali dello Stato. E allora, voglio dire, bisogna stare attenti a collegare liberalismo a non interventismo dello Stato, così come secondo me bisogna stare attenti a collegare liberalismo al solo parlamentarismo, perché voglio dire, il liberalismo è più complesso secondo me in queste direzioni. Cioè, adesso ci sarebbe da intervenire su quella distinzione tra le due culture rappresentate da Spaventa e da Minghetti, cioè anche qui bisogna intendersi. Alla fine, secondo me, l'uno e l'altro fanno parte di quella dittatura di Savi, di quella oligarchia che gestisce il paese nel primo quindicennio. Mantengono, voglio dire, queste diversità, però alla fine, secondo me, i punti di confluenza sono sempre maggiori, perché scoprono che perché il dramma italiano, dal punto di vista, è che questa classe dirigente scopre che ha 360.000 motivi per dividersi, ma scopre che deve stare assieme se vuole far funzionare, virgolette, il miracolo dell'unità. E questo vuol dire per una serie di condizionamenti precisi. Visto che non c'è Matteucci, risparmio battute sulla triade del Croce in Audi, Covetti, che però semplicemente, cioè, un po' stragante, perché, voglio dire, questa è una triade gloriosa nella storia del nostro paese, ma non serve per dimostrare la vitalità del liberalismo oggi. È vero, fase di transizione, io l'ho usato in modo un po' provocatorio, però io mi aspettavo che questa osservazione del professor Vantus la facesse Matteucci, non a me, perché era Matteucci che aveva il problema di dimostrare la eternità della prima, l'ha detto fare molto più semplicemente, cioè che secondo me il liberalismo è stata una grandissima fase, una fase significativa, inciso, non in sede storiografica, tagliamo oggi il fatto che non studiamo più quelle cose, perché voglio dire, stiamo rimuovendo una fase significativa, una fase che ha inciso e una fase che ci ha lasciato delle eredità, in positivo e in negativo, ma ripeto, Il mio problema non è quello di dimostrare l'eternità della vita. Ringrazio il professor Sartrella che i suoi interventi, il suo punto di vista. Voglio dire subito che io non do al discorso dittatura una oligarchia parlamentare una connotazione negativa. Io ritengo che sia stato un fatto fortunato, una felice impossibilità, quella che ha impedito alla classe dirigente liberale del nostro paese di fare la del Parlamento. Se pensiamo al tipo di problemi che questa classe dirigente si è trovata a dover affrontare, e voglio dire, pensiamo, dobbiamo anche pensare che nel nostro paese la tentazione dell'uomo forte, vuol che fosse il re forte, vuol che fosse il cancelliere forte, vuol che purtroppo fosse, come si è verificato, il dittatore più forte, voglio dire, avrebbe dovuto serpeggiare come ha serpeggiato da molto prima. Io ripeto, trovo una espressione di una infelice impossibilità, cioè di una felice impossibilità di fare a meno del Parlamento, per il rapporto con la corona, secondo me. Quello che fa così che questa oligarchia, che ha detto il nostro paese in quella fase così travagliata, abbia dovuto servirsi del Parlamento. Se ne è dovuto servire, secondo me, contro la corona, se ne è dovuto servire per mediare i propri conflitti e le proprie contraddizioni interne. Poi ti sono un'osservazione mia. Ho trovato bello, anche se un po' provocatorio, la tendenza che ho visto fiorare a distinguere la mia relazione in due parti, una tra virgolette non storica e una storica. Ora, qui gente si intende, tutto il senso della mia relazione era questo. Per studiare in sede storica, fate bene, e non in sede amena o politologico, quelle scienze che voi non considerate serie, ma per studiare in sede storica le vicende delle istituzioni, occorre, secondo me, esplicitarsi una serie di punti di riferimento. Perché altrimenti c'è un rischio, ed è che noi valutiamo i discorsi sulle istituzioni in base a riferimenti ideologici mutuati da altre cose. Oppure ci limitiamo, secondo una valutazione tipica degli storici, come ci ha insegnato in Italia Salvemini, a una specie di cura d'anime, per cui il problema è quello di far vedere se questi sono stati buoni o sono stati cattivi, hanno commesso degli errori organizzativi oppure no. No, il problema è a un altro livello. Quando si deve organizzare il potere, vuol dire, si incontrano una serie di condizionamenti ben precisi. Cioè, come se quando si deve invertire una guerra, no? Poi voglio dire, la si vince e la si perde, sia in rapporto alla forza degli avversari, ma anche in rapporto a come la si è impostata, voglio dire, e questo che noi abbiamo per scontato, no? Uno storico che oggi si provasse a dire che le vittorie o le sconfitte della prima guerra mondiale sono il frutto della provvidenza, ecco, si tirerebbe dietro, cosa un po' ridicola. Uno che si occupi di storia delle istituzioni e adotti alla fine un criterio di questo tipo, per cui voglio dire, non si capisce mai per come hanno funzionato i sistemi e perché hanno funzionato in un modo piuttosto che un altro. Cosa voglio dire? Voglio dire che i punti di riferimento che io ho tirato fuori, mi scusi, in un modo magari un po' lungo, prolisso, con delle banalità, eccetera, erano un preciso richiamo che deve valere in sede storiografica. Cioè, il richiamo è questo: quando ci si occupa di vicende che riguardano le istituzioni, occorre per esempio avere avvertenza alle seguenti regolette. Prima che c'è un discorso fondamentale di peso del passato. Ce lo hanno insegnato le annate, il peso del passato per la mentalità collettiva. Ecco, una storia dell'istituzione seria ci insegna che per le istituzioni il peso del passato è decisivo, secondo regolette. Per esempio, quando si studiano i fenomeni istituzionali bisogna sempre fare i conti col processo di accumulo delle istituzioni. Se noi pensiamo alle vicende di vari paesi, per esempio un caso emblematico delle riforme amministrative, noi sappiamo primo che se ne sono sempre fatte pochissime. Secondo, sappiamo che le riforme vere si sono fatte per aggiunte. Quindi, voglio dire, quando noi vediamo il discorso dello Stato, no? Dobbiamo arrivare al discorso in cui anche lì è un processo, se volete, di accumulo. Terzo e ultimo punto. Io credo che uno dei risultati più significativi della storiografia tedesca, quella che noi chiamiamo storiografia sociale culturale globale tedesca, qual è? Quello di aver insegnato che la vicenda Stato come forma di organizzazione del potere è un processo storico preciso che ha un inizio e che può darsi anche che abbia una fine. E quindi bisogna sempre, studiando il modo in quale le varie fasi, le varie classi dirigenti, hanno organizzato il potere dello Stato. Noi tutti ci occupiamo di secoli, dal 1400 ai giorni nostri. Bisogna anche richiamare questi punti di riferimento. Certo, io mi scuso perché potevo benissimo farlo in formula, diciamo, indiretta, no? Potevo darvi pian piano la mia ricostruzione e voglio dire, i miei dati, e poi dopo richiamare cosa va bene. Però, visto lo stato degli studi su queste cose in Italia, ho pensato che sia un passaggio indispensabile, voglio dire, richiamare questo tipo di cose, perché altrimenti lo sviluppo della storiografia delle istituzioni nel nostro paese rischia di bloccarsi. Grazie, riporto ancora chi vuol venire oggi alle 20:30.